Cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, avvocato? No, ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per no, gli scherzi cretini e di cattivo lo faccio stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Pronto, ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio Capone, stare zitto. Ma qua non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Se dovessimo avere una corsa in avanti da parte di regioni nelle quali abbiamo ancora il contagio presente in maniera così forte, la Campania chiuderà i suoi confini, cioè faremo un'ordinanza con la quale vieteremo l'ingresso in Campania di cittadini provenienti da regioni nelle quali il contagio è pienamente in corso. Io direi, Salvatore, se mi accendi la lucetta rossa, di partire immediatamente con la prima telefonata! Pronto? Signor Di Battista? Sì. Buonasera, mi chiamo Cruciani, la disturbo? Cruciani, se la prenda nel culo lei e Radio 24. E perché, perché me la piglio nel culo, scusi? All right, listen up. Anyone who isn't a part of the band or the crew, could I please ask you to leave right now? We'll be on stage in 15 minutes and we need a room, please. Buongiorno, buongiorno, bentornati ad Agorà. Buongiorno David Parenzo, buongiorno Dania Zevi. Casa Parenzo, casa Zevi, due amici di Agorà, buongiorno. Cosa vuol regalare la Fusani? Le ho portato un regalo, visto come ha reagito con una lira. Stavolta gli ho portato 10.000 lire, le vede bene, guardi. Guardi bene, riesce, se le ricorda. Quello che veniva chiesto dai parlamentari verdi era una rubonda con delle condizionalità che ci avrebbero messo, la vede la cravatta, la vede qui come gliela tiro su, ci avrebbero ammazzato. Noi non vogliamo gli eurobond con le condizionalità, ha capito? Io ho capito perfettamente che lei, scusi, ma lei era di scelta civica, lei era di scelta civica. All I hear is hurry, hurry, the dressing room is loaded with temptation. Pezzo a te! Hey, free beer for everybody. Sì, tu fai la collezione dei francobolli e io ti do una collezione di schiaffi, se non mi dici la verità. E vedi queste? Qua ci stanno le impronte tue e sei schedato. Io non son cazzo. Legate gli bada a questo. Non di parolacce a bombolo che ho fatto il voto. Ma il voto l'avete fatto voi, mica ho fatto io. È come se uno smette la fumare e tu gli fumi in faccia a bombolino, lo devi fare, eh? E che cazzo mi fai capito? Eccoci. Dal bunker di via Monterosa, ancora vivo, ancora vivo, vivi e vegeti tutti quanti. Non lo dico perché metto le mani subito a pelle. Il sottoscritto, applausi, applausi, applausi. L'unica trasmissione in cui il conduttore si fa gli applausi da solo. In collegamento invece dal solito bunker, quartiere Prati, via con la V inizia, via V punto, via puntini. David Parenzo, buonasera. Buonasera cari amici, in una giornata molto felice perché le istituzioni europee hanno poche ore fa votato. Felici di cosa? Ma sono depresso e siamo tutti incazzati come bestie. E la Lega ha votato contro. Il Parlamento europeo ha votato a favore degli eurobond. Ma chi se ne frega? E questi simpatici amici tuoi, sovranisti e cialtroni, sì, l'aveva un emendamento proposto dai verdi tedeschi, peraltro, che loro attaccano. Pensa il paradosso del paradosso. No, andate sopra, Parenzo, che non ne posso più, voglio parlare solo di cose molto. Comunque, i leghisti hanno votato contro. E il tuo amico Zezzelli, notato... Bombolone, a Bombolì e il bombolino di ieri, come si chiamano? Carina. Ma tu, dico solo questo, poi mi zittisco e fai la tua copertina. Dico solo questo. Ma uno può, porca la puttana, andare in televisione tutte le volte, parlo di Rinaldi, ero deputato della Lega, e ogni volta tirar fuori una banconota da 10.000 lire, le lire, se gli piacciono le lire, si facesse dare il suo cazzo di stipendio in lire, Rinaldi della Lega. Ma è lui che ride, e lui rideva, Cruciani, anziché andargli conto. Pezzo rideva, di teatro meraviglioso, rideva. Pezzo di teatro. Ma meraviglioso. Che te, fatti dare anche tu, ti paga, la Confindustria ti pagasse in lire. Ma io a che te, c'entro? Mica io voglio tornare alla lira. Non l'ho mai detto. Ad applaudirlo, ma no, ad applaudirlo, io, Eri. Forse come ad applaudirlo, è un pezzo di teatro meraviglioso. Esibire 10.000 lire, teatro meraviglioso. Vi posso dire una cosa? Ho visto oggi per caso nel pomeriggio, poi torniamo a cose di attualità. Ho visto nel pomeriggio un signore collegato, un signore, mi è giunta voce di un signore, anzi l'ho visto con i miei occhi, di un signore collegato durante la trasmissione Tagadà sulla 7, un signore nel lussuoso quartiere Prati di Roma, collegato dal suo terrazzino, dalla tua ampia terrazza, mentre noi qui siamo sulla barricata della barricata della Lombardia. Se scopro chi dà queste notizie, ma che è televisione, che notizie, se scopro chi è il delatore, che te lo segnala, però. Allora, no. E io un sospetto ce l'ho. Comunque ce ti l'ho, posso dire una cosa, dico. Eri collegato dal tuo terrazzino col tuo solito maglioncino, la tua solita, però, o la tua solita magliettina firmata qui con la bella firmetta sulla sinistra. Io non sopporto le cose firmate, la tua solita marchettina qua sulla sinistra, con servito e riverito da un ampio terrazzino nel quartiere Prati, cosa che molte persone invidiano, e ho visto anche qualcuno di colore, con un braccio di colore scuro, che poggiava un'aranciata, una spremuta d'arancia. Quest'ultima cosa è una bugia assoluta. Ma quando mai? Notate bene le immagini, un signore che si chiama David Parenzo, seduto, collegato in televisione con il programma Tagadà, in un ampio terrazzino di Prati. Non è un crimine, uno potrebbe dire. Esatto, tra l'altro, stai descrivendo come se fossi lì a comprare la droga in un quartiere oscuro. No, vi faccio il paragone. L'uomo che poi naturalmente parla dei 600 euro, beh, hanno fatto bene quella miseria dei 600 euro. Il paragone tra David Parenzo, che oggi era seduto, ripeto, su un terrazzino, ampio terrazzino soleggiato di Roma, servito e riverito con una spremuta d'arancia, probabilmente da una Golf di colore. No, probabilmente ma non è una... Sei pazzo. Guardate bene, ma le tutt'altro. Guardate, ma non c'è nessuna immagine. Guardate bene quelle cazzo di immagini e vedrete a un certo punto. È una trasmissione criminale questa, dove si e vedrete a un certo punto una mano con un polso, ma non c'è nessuna con mano. I guanti, con i guanti, con un polso però che si vedeva di colore, di una ma che non, non si sente niente, però probabilmente avrà detto: signore Parenzo, posso servire? No, parla in inglese. È arrivata, se mai parla in inglese, ecco, sir, è arrivata come lì, gli indiani. Una sai, spremuta gli indiani d'arancio, vergogna. Sir, ecco, lemon juice. Mentre sir. Mentre Parenzo, è così un signore. Mineral credo... water for you, sir. Sì. Mineral water for you. Esatto. For you, mentre sir. Parenzo. Gli indiani, l'inglese degli indiani. Presente l'inglese degli indiani, qua. Mineral water with lemon for you, sir. Sir. E la gente muore di fame. Esatto. Ma che mentre muore di coglioni fame. Che mentre siete. Parenzo siete una era collegato. Siete dei criminali. Io faccio una bella nuova presente Confindustria. Siete dei criminali. Chiudete questa trasmissione. È una trasmissione in cui i conduttori si delegittimano a vicenda, infangandosi, insultandosi, aizzando l'odio sociale. È una trasmissione assurda. Assurda. Assurda. Mentre Parenzo era così piazzato. Sì. Meanwhile, come si dice? Senti, a Padova. E dico a Padova, non a caso dico a Padova, c'è un signore che si chiama Maniscalco, che ha completamente Maniscalco. È un ristoratore, non è nulla, è una persona Maniscalco? Comune. Il confronto è tra David Parenzo piazzato nel suo cazzo di terrazzino, servito e riverito. Eri così in televisione, l'hanno visto tutti. È un signore che ovviamente esplode per la rabbia, esplode per la situazione, perché non ce la fa più. Perché c'è rabbia, infatti. E c'è rabbia, certo, non traspare da quelle immagini in televisione. Non traspare. Ma cosa devo fare? Ma devo urlare, ma che devo fare io? Ma non lo so, ma porca miseria. Ora io pago al comune, ok, 4.500 euro l'anno di soldi di plateatico, ok? Sì. Soldi buttati al vento, perché il comune comunque qua sotto da noi in galleria non ha mai messo una lira, non ha mai fatto niente, non ha mai investito in qualcosa, è sempre dirottato tutto verso il centro. Ora io mi chiedo, come cazzo pensate di poterci farci riaprire a queste condizioni? Vi dovete rendere conto che la gente si sta preparando, la gente vi viene a prendere, avete rotto i coglioni, avete rotto. Noi vi veniamo a prendere, capito? Perché avete rotto i coglioni, ci state riducendo su lastrico, ok? Io sto andando avanti a prelevare soldi dalle carte di credito, che sta, forse spero di avere il mese dopo per mangiare. Si sta rivolgendo a te, si sta rivolgendo, vi veniamo a prendere, si sta rivolgendo a te, si sta rivolgendo a te. Guarda, è quasi sicuro. Si sta rivolgendo a te, ha visto quelle immagini, ha visto quelle immagini e gli si è rivoltato il sangue. Ma tu hai l'odio vero? Ma tu hai l'odio sociale vero? Si è rivoltato lo stomaco, il sangue è un'altra cosa. Che poi però parli tu che ti sei fatto mettere quello per correre nel tuo terrazzo privato, peraltro. Parli, io pubblicherò le foto e pubblicherò le foto del tapirulanda a 7.000 euro che ti sei fatto arrivare con una voce di donna, che parla con la voce di donna, peraltro, apposta, che ti sei fatto mettere sul terrazzo. Le pubblicherò nel prossimo futuro. Io conto su quello che sono, una persona onesta, e continuo a pagare e voglio vivere di questo, e ho solo questo per mangiare. Se io chiudo qua, o ve la metto in culo a voi, ed è quello che farò, ecco. Ok? O se no sono in mezzo alla strada. Ma però prima di prendervi la mia vita, io vi vengo a prendere la vostra. Di questo devi avere paura, dai tuoi privilegi romani, certo, devi avere paura di questo qua, devi avere paura di questo. E si rivolgeva ai politici, però uguale. Si rivolgeva ai politici, però va bene lo stesso. Tutto uguale, perché sì, l'hai adattato a un sottoscritto. Che cosa ho fatto? Ho fatto un collegamento per una trasmissione televisiva, ma ti rendi conto cosa stai montando? Un terrazzino? E voi siete veramente fuori di testa, io vi vorrei sbranare, io vi sbrano. Io vi spacco la testa, vi spacco la testa. Guai al primo che osa faccia a faccia venirmi a dire qualcosa, perché io vi sbrano, io vi smonto. Allora ragazzi, ditemi voi se ci capite qualcosa, ditemi voi. Adesso torniamo un attimo a un commento più o meno semiserio. Alla serietà. No, sì. Ma serietà, no, serietà non c'entra niente. Allora, ditemi voi se ci capite qualcosa. Vi elenco una serie di dichiarazioni. Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna: chi ha reddito di cittadinanza può lavorare nei campi. Bah, lo dice lui, ma in realtà non lo deve decidere lui. Va benissimo, perché da per me ha ragione. De Luca: chiudiamo la campagna se al nord allentano le misure. Avete sentito prima? Faremo riascoltare il governatore del mondo. Fontana: riapriamo il 4 maggio, poi si corregge solo se lo dice la scienza. Zaia che dice: per noi il lockdown già non esiste più. Poi i virologi, gli esperti, un Nobel che parla oggi di virus che è nato in laboratorio, la CNN che parla dell'origine del virus in un laboratorio di Wuhan. Parigi, l'Eliseo che parla, che dice che in Cina hanno nascosto qualcosa, e non solo in Cina. Ragazzi, in Cina sicuramente hanno nascosto qualcosa, ragazzi, l'abbiamo detto fin dall'inizio, quello miei, che c'entra. Limitandoci all'Italia, ma chi cazzo decide? Ormai non decide più nessuno. Questi della task force, ma che cosa vuoi che facciano questi? Questa pletora di esperti. Se la situazione è diversa Colau, in ogni parte d'Italia. In Veneto potranno fare il cazzo che vogliono tra poco, dopo il 4 maggio. Noi no, per esempio in Lombardia. A Roma non si sa. È un bordello, è l'anarchia, è la fine dell'Italia ormai. Questa roba qui è la fine dell'Italia così come la conosciamo. De Luca sta impazzando. Sta dicendo anche delle cose giuste. Giustamente si fa i cazzi suoi. Chiude, blinda, non vuole gente che viene dal nord. Se al nord riaprono, lì chiudono, è la fine. Fermi. Guarda che nessuno dal nord va in campagna. Amo quanto mi ami, dillo a tutto il mondo, tutta la vita. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Appena visto Parenzo in TV, mamma mia, mamma mia, quanto è brutto, marrone brutto, pare fatta la tinta, fi schifo. Cruciani, falla finita di parlare male dell'Italia, della situazione lì del coronavirus. Qui io abito a Londra, qua è uno schifo, è una vergogna. Tutti in giro, oh, tutti che si abbracciano, si baciano. Ma andate a fanculo, va. Qua che vai nei supermercati, nessuno che c'ha i guanti, nessuno che c'ha la mascherina. È uno schifo, è uno schifo. Ringraziate il Dio di stare in Italia. No, no, no. Sì, io vedo molto negativo. Io... Che non sia invece la strada giusta, ragazzi. Che non sia la strada giusta, no, non lo so, me lo domando ancora. Adesso, dico adesso, prima forse non lo era. Prima può darsi che abbiamo evitato una marea di morti con quello che abbiamo fatto, anzi sicuramente è così. Direi, quello sicuro. Ah, ragazzi miei. Allora, Rinaldi, partiamo con Rinaldi, amico mio. Partiamo Rinaldi, con Rinaldi. Sì, della Lega, che hanno votato contro gli Eurobond. Sì, ma ragazzi, ma che vuoi che gli interessi? Non lo vuoi dire. Ascolta? Interessa. Chi ci ascolta? A chi ci ascolta interessa. Magari ci steso, cittadini. Magari in questo momento a casa, sicuramente molti a casa, non solo, alcuni camionisti, gente che per lavoro nel terrore sta tornando a casa o sta andando verso il luogo di lavoro. Al camionista non gli interessa gli Eurobond. Gente che è dentro casa, gente che è dentro casa con la amante, con i genitori. Debito pubblico europeo, gli interessa ma non gli interessa, di quel demagogo che sventola la lira in una trasmissione televisiva. Adesso te lo faccio sentire alla gente che sta dentro casa e che in questo momento comunque cosa è depressa, gli interessa la gente che sta magari dentro casa e sta vedendo, sta ascoltando la radio, la sta vedendo nei vari canali in cui trasmettiamo, la sta vedendo, non lo so, seduto in poltrona, magari dentro una vasca, dentro una meravigliosa, sai che bello vedere la zanzara dentro una vasca. Uno sta dentro la vasca e guarda la zanzara, guarda sì, la mia faccia, da bagno, purtroppo certo. La tua non la può guardare. Per fortuna, dentro una vasca da bagno, cosa meravigliosa, meravigliosa. Rinaldi e le 10.000 lire, io ormai 10.000 euro non si possono esporre. 10.000 lire fatte vedere così, a un certo punto tira fuori le 10.000 lire. Una buffonata. Cosa vuol regalare la Fusani? Le ho portato un regalo, visto come ha reagito con una lira. Stavolta gli ho portato 10.000 lire, le vede bene, guardi bene, se le ricorda. Appunto, gli ho portato 10.000 lire questa volta. L'altra volta era una lira, stavolta 10.000 lire. Te ricorda, non sì. Rinaldi sta impostando tutti i suoi interventi con un obiettivo molto chiaro: uscire dall'Europa, strappare con l'euro e ritornare a stampare la nostra povera. Cara Fusani, ma lei non sa neanche la differenza fra l'Unione Europea e l'Europa. Lei non sa neanche questa differenza. Caro Rinaldi, il Regno Unito è uscito dall'Europa. La differenza tra una persona responsabile e lei. Lei non è una persona responsabile, mi dispiace dirglielo. E glielo ho detto in maniera. Ho aspettato 65 anni per aspettare lei per dirmi queste cose. La ringrazio. Va bene, iniziamo ora così. Grazie, ho aspettato 65 anni. Mi fate sentire questa amenità. La ringrazio. Allora, senti un po', Giuseppe Cruciani. Giuseppe Cruciani, sentiamo. Sentiamo Giuseppe Cruciani che dice. Ecco i 10.000 lire. Stasera però non ti vedo carico su Rinaldi. Ho preso 10.000 lire. No, perché sono allibito. Sono allibito dalla vergogna del loro voto al Parlamento Europeo contro gli Eurobond. Una vergogna assoluta. E quello sta fa economista in televisione. Te faccio vedere 10.000 lire. Mi compravo la pizzetta e una birretta e te mannavo a fare in culo a Merkel. Con 10.000 lire mi compravo una pizzetta, una birretta e te mannavo pure a fare in culo. Sai invece la cosa che ho trovato più straordinaria di oggi? Un racconto di Dennis Rodman, che era un famoso cestista, che ha confessato, non so dove, in un'intervista, credo, a un giornale spagnolo, di essersi rotto il cazzo 3 volte. mi sono rotto il pene tre volte. Cosa c'entra con Rinaldi? Non c'entra nulla. Questa sezione Rinaldi con la rottura. Non so perché. Però ho trovato appassionante. Quello è sensibile. Ho trovato appassionante questa cosa qua. No, ma più non c'è nessun riferimento a Rinaldi. Perché hai fatto un'associazione tra uno che si è rotto e cose Rinaldi. Io lo dico. Cioè, per carità, a me l'associazione può anche funzionare, però. L'hai fatta tu, cioè non vorrei che poi venissi mi io sono richiamato rotto all'ordine il mi sono rotto il pene tre volte. La prima volta era una festa su una barca, stavo bevendo di tutto e una ragazza mi ha detto di andare nella sua cabina. E lì lo stavo facendo quando mi sembrò una buona idea fare il salto della quaglia. Il salto della quaglia. Ma non controllavo la bestia. Ho saltai capito. Come un matto, c'era sangue dappertutto. Lei urlava, stai morendo. Io le risposi: no, non preoccuparti, mi sono solo rotto il pene. La seconda volta è stata dopo una partita con i Rockets in cui mi hanno tirato una pallonata proprio lì. Stavo per fare sesso tantrico. Nulla, è una cosa attuale. Però. Stavo per fare sesso tantrico e si è diviso come una noce. La terza era in una notte selvaggia in un hotel con la mia ragazza. Sapevo cosa fare, dovevo andare in ospedale per prendere la pillola. Ma tutti i dottori hanno iniziato ad eccitarsi e hanno chiamato metà dell'ospedale. Non capivano come si era rotto. Volevo solo la pillola. La cosa che ho trovato stupenda, i racconti. Comunque, mentre tu leggevi di questa cosa, di questo pene rotto, la notizia bomba di oggi è che cambia il bollettino. Cioè, la Borrelli non farà più tutti i Ci sono voluti 45 giorni per capire che era una farsa immane, che non serviva più a una merita sega, e dunque faranno dal lunedì e il giovedì, che è già troppo secondo me, dovrebbero fare una volta a settimana. Però siccome non hanno voluto dire abbiamo fatto fino adesso una farsa, dice vabbè, allora facciamo due giorni a settimana, così poi perché lunedì e giovedì? Fatelo venerdì, che cazzo c'è, alla fine di una settimana? Certo, così, certo, a caso, certo. Non si capisce. Una cosa pazzesca. Briatore contro i virologi, dai, fatemi godere. Ancora Briatore detto. Contro i virologi, sempre in TV. Caipirinha. No, adesso ce n'è un'altra oggi. E noi abbiamo scoperto tutti questi dottori, i virologi, che prima non sapevamo neanche che esistessero. Beh no, tu non e questi sapevi, qui veramente. Non so quando sono negli ospedali, perché li vedo sempre in televisione. Hai ragione, dai. E ognuno dice una roba diversa. Tutte le sere ne abbiamo di questi fenomeni 7-8 e ogni 7-8 dicono le robe più disparate. Prima non esistevano, adesso sono dappertutto, impazzano dappertutto. Ma c'ha ragione lui, dai, ma c'ha ragione al 100%. Ma oggi uno se apre i giornali, ti giuro, i siti dei giornali, i siti di informazione, di notizie, sente almeno 7 pareri diversi. Fatti ma è la democrazia, Briatore. Perché cioè, carità... il fatto che Briatore fino a ieri non conoscesse l'esistenza del medico virologo non mi rassicura sulle grandi doti manageriali che aspetta. Anche chiunque, anche Rinaldi, sa che esistono i medici virologi. Anche financo Rinaldi, financo. Ogni giorno sti qui ti parlano di medicine che verranno, che questo si può fare, non si può fare. È un gran casino. Che stessero zitti, stessero negli ospedali invece di stare davanti alle televisioni tutto il giorno a confondere la gente. La trovo grandissimo. Poi a un certo punto se la piglia, giustamente, secondo me, con le task force. Con le task force, ridicole task force che vengono creati, comitati. Qui, tra l'altro, se il Veneto decide per sé, ma che cazzo serve una task force? Cioè, il Veneto decide per sé, praticamente fanno il cazzo che vogliono, giustamente, e poi noi abbiamo una task force a Roma che decide su cosa? Il coordinamento con quale? Dai, su, beh, ma di certo, che parliamo? Il coordinamento ci vuole, però. Il coordinamento ci vuole. Ma sembra che viviamo in un mondo di matti, dove non c'è nessuno che è pragmatico, nessuno che dice facciamo così, usiamo questo, facciamo quello. No, tutti sti comitati, comitati di qui, comitati di lì, la gente non ha soldi, non riesce a portare a fine mese la famiglia. Ecco il punto fondamentale, vai. Quando scade la cassa integrazione, chi viene il professore a spiegarti che non c'è più cassa integrazione, sei disoccupato? Chi verranno questi qui, questo gruppino qui? Gruppino. Fantastico, vediamo come va a finire. Ciao ragazzi. Ragazzi, però scusa, ma che c'ha? Perché c'ha una fidanzata brasiliana? Ma perché è scatenato con questo brasilierismo, con questo portoghesismo, con ma questo cariochismo? So, non il sapeva dell'esistenza dei virologi. Ma lascia perdere, chi se ne frega? Ma no, ma il sì, gruppigno, ma dopo la caipirinha, là che era la, sì, sì, la tachipirinha, c'è cioè il gruppigno. Questo gruppigno deve avere una fidanzata brasiliana, secondo me. Secondo me chi deve avere questi essere, qui, questo gruppigno qui? Fantastico. Questo gruppigno, sì, può essere, sì, una buona tesi questa. Allora, il governatore del mondo, le videoconferenze non servono a un cazzo. Però ho capito, Luca, come la gente, come si parla, però. Perché lui non è abituato a parlare, non è abituato a fare le videoconferenze. Lui fa le hai visto decide, cosa fa? Basta, quei proclami. Fa quei proclami alla nazione. Fa fa i proclami, giustamente. Ma belli, anche autorevoli. Come un caudillo. No, ma bellissimi, autorevoli. Vedi come sembra bella anche la scrivania. Sì, ma la sua scrivania, vedi come sembra bella, libera, vuota, pulita, c'è, linda. Fatta apposta, bella scrivania, bella pulita. Perché dà chiarezza di idee la scrivania pulita. Sì, quello è vero, sì. Trasmette chiarezza di idee. Mi capita che quando cerco alcuni interlocutori nazionali, a volte ministri, che succede? La risposta che ricevo sono in videoconferenza. Ormai abbiamo tutta l'Italia che è in videoconferenza. Mi pongo sempre la domanda maligna, ma quando lavoriamo? Credo che abbiamo verificato tutti quanti che queste videoconferenze 9 volte su 10 sono una perdita di tempo. Questo è giusto. E non servono a niente. Produrranno, credo, soltanto delle mutazioni genetiche. Ci capirà di trovare fra qualche settimana ministri geneticamente modificati che hanno maturato una testa di computer, una testa di tablet, diciamo. Voglio umilmente far far osservare a De Luca che anche le videoconferenze sono lavoro. Ci dici quando lavorano, però se uno non parla e che lui non è abituato, cioè pensa di notte e poi il giorno dopo fa un provvedimento, cioè non deve parlare, coordinarsi, decidere, compromettersi. Paolo da Bologna, chi c'è? Paolo, Marco da Caserta, non c'è nessuno. Ma non esiste, ma esiste l'opposizione in Campania? No, perché non si sente mai l'opposizione pieno, in Campania. È pieno di gente che vuole chiamare. Aspetta, che vuole intervenire, fermo. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. La Zanzara. Dimmi. Io ho bisogno di te perché io ho bisogno di che mi aiuti, perché l'altro giorno praticamente ero andato al bar, no? Per due è una cazzata, cioè comprare il latte, il vigile là è la multa, no? No? Io non ho parole, vorrei che tu mi aiutassi. Digli qualcosa, vorrei che andiamo insieme. Mi senti, Richard? Sì, non ho capito il fatto di comprare il latte col vigile, scusa. Ho detto che c'era che un vigile ha fatto la multa perché ho lasciato 5 minuti la macchina in doppia fila, no? Sì. Schifoso! Ultimo! Vabbè, il vigile, che ne so, questi vogliono guadagnare i soldi a nostro discapito. Speculatori. Allora è proprio no. È uno schifoso! Questo pubblico è uno schifoso! È una vergogna! È una vergogna! Scoprilo, piatti! Oh, vigile schifoso, che poi mi fate le multe per conto vostro e mi mettete i soldi in tasca vostra! L'ho letto su tutti i quotidiani! Schifosi! Bastardi! Ho capito! Perché tu poi quando che suoni che ti tirano la roba, i polli, le uova. Sì, capirai, io non li faccio più sti concerti, non me ne frega un cazzo. Capito? Bravo, fai bene, perché sennò la gente, se tu gli dici così, quelli si eccitano e continuano, questi schifosi, capito? Sì, sono degli schifosi. Che è successo al monitor? Poi si calma improvvisamente. Cosa? Hai capito? È una cosa veramente. È una cosa veramente schifosa? Che c'è? Non ho capito. Va bene, abbiamo un'altra telefonata in linea. Questa ha lasciato la macchina a doppia fila e il vigile gli ha fatto la multa. My girl's ready to take control, she just blows my ragazzi, secondo alcuni la verità sta venendo a gara. Stavo pensando che cioè, questa era una trasmissione televisiva di Benson, giusto? O radiofonica, televisiva. No, televisiva. Sì, tanti anni fa. Io mi sento di escludere che questo programma possa essere messo in onda sulla 7, ad esempio. Mi sembra distante, diciamo, dal racconto che era... della cifra, diciamo, della... Ma poi perché dialoga? Cioè, non aveva capito niente dall'ascoltatore. Poi a un certo punto si è infervorato. Sulle multe contro i vigili. No, ma perché l'ho messo perché mi ha rievocato la situazione tu di adesso. Tu sei così, lo sai ormai. Tu ormai sei così. Sì, anzi, Benson è più lucido di te in certi momenti. Allora, ti voglio far sentire un premio Nobel, Luc Montagnier. Chiudiamo, dai, che è andata bene così. Luc Montagnier, aspetta, Luc Montagnier. Luc Montagnier che dice, no, perché poi uno dice, è contro il complottismo, eccetera. È un filosofo. Tu hai preso per il culo. No, no, ma che uno, ma sei pazzo, un premio Nobel. No, Montagnier non era un filosofo. Ma quando, ma c'era stato pure un Montagnier, filo, quello è Montagnier, non c'è un cazzo. Allora, vabbè. No, allora, Luc Montagnier che dice che a Wuhan da tempo si fanno gli studi sul virus come in laboratorio. Ti giuro, in francese è straordinario, senti. Ah, ok. Le laboratoire de la ville de Wuhan s'est spécialisé sur ce type de virus, ces coronavirus, depuis très longtemps, depuis le début des années 2000. Allora, la sostanza è questa, cioè non la sostanza, la traduzione, che a Wuhan dall'inizio degli anni 2000 si fanno studi sul virus in laboratorio, sul coronavirus. Vabbè, lo sapevamo già. Lo sapevamo. Però attenzione, hanno modificato il virus in laboratorio. Questa è una cosa francese, della TV francese, naturalmente. Ma dai, che fa ascolto questo France 2. Beh, no, France 2, dai. Ils ont travaillé sur un modèle qui est le virus de chauve-souris et c'est ce virus là qu'ils ont modifié. E lui sostanzialmente dice che il virus è uscito dal laboratorio, non è credibile che arrivi dal mondo animale, diciamo, dal mondo che si sia prodotto in maniera naturale, Nobel, come sì, dicono sì, tutti, come dicono tutti. Vabbè. Tum, tu, tu, tum, tu, tu, tum, e l'hai buttata lì per seminare. Sì, buttata lì così. No, che dubbi. Buttata lì perché ne arrivano di tutti i colori. No, ma e poi se uno prova a discutere, no, ma chi se ne frega? Altra telefonata, è tutto buttato in un calderone unico. Ma ti pare normale che in questo caso? Ecco. Ma ti pare normale che in questo casino la Bellanova, il ministro, pensa a regolarizzare Teresa gli immigrati? Bellanova. Pensa a regolarizzare. Ministro per l'agricoltura. A regolarizzare, sì, ha detto una cosa immigrati molto giusta. Lo ma ha scritto del resto anche Tito Boeri oggi. Ma chi se ne frega di chi oggi lo ha Boeri scritto su Repubblica. Ma le cose che leggi solo tu. Che ma Boeri chi se ne frega? No, non ma, solo per 650.000 persone da regolarizzare. Bellanova, ma sai perché? Bellanova. Ma no, ma non solo follia, per l'agricoltura. Dai. Perché è un pericolo averli nascosti. Devono diventare visibili. Sono più pericolosi nascosti perché possono diffondere vale il sempre, contagio. Ma invece quello va, ma che dici? E lei ha maggior ragione, l'ha scritto magnificamente Boeri. Andate a leggerlo. Agevolazione dei rientri in Italia e proroghe dei permessi degli immigrati. Lotta al caporalato anche mediante la regolarizzazione. Facilitazione delle assunzioni di lavoratori al momento inoccupati. Va bene, andiamo con gli ascoltatori, vai ragazzi. Marco farli da Caserta. Emergere dalla clandestinità, non c'è dubbio. Marco da Caserta, vai, Marco, dimmi. Saluto il supplente. Aspetta, aspetta, calma, parla. Che se li troverà in prima serata a giugno. Non si sente niente, Andrea da Gorizia, vai, Andrea da Gorizia. Non si sente niente, Andrea, dimmi. Eccomi. Vai. No, dimmi. Niente, guardate, allora, io già tra giorni che chiamo, io sono incazzato nero, ma veramente molti incazzato sono nero, curioso. Molti lo sono incazzati. Lo so. Con la situazione dei nostri figli, dei nostri studenti, ragazzi, perché qua è dicami, tanto le scuole non riaprono, questa è una grandissima cazzata, secondo non lo me, so se è una cazzata o no, in altri paesi riapro, da noi sicuramente non sì, riapriranno, no, il punto è che dovrebbero dirlo ormai, lo dicessero esatto, e vaffanculo, prima di tutto, cioè, esatto, prima c'è di tutto sempre questa incertezza totale assolutamente, su tutto. Assolutamente d'accordo con te. Seconda cosa, io penso anche che ci siano zone in cui è giusto che magari restino chiuse, e zone, io chiamo dalla provincia di Gorizia, fatta come tantissime altre province d'Italia da paesi di 1.000, 5.000, 7.000 abitanti, in cui mia figlia va alle scuole elementari, sono in 12 per classe. Sì. Queste scuole qua, con le dovute cautele, secondo me dovrebbero riaprire. Andrea, che altra cosa ti posso dire io? Coglioni, altra cosa che mi vuoi dire fare, i coglioni ma... è che giugno, al nord, ma al nord, al nord-est, perché devi dare una sorta di continuità didattica un po' a tutto il paese, non è che puoi avere diverse, ma ormai tutti dovrebbero avere la scuola da casa con l'iPad che si collegano almeno quello, i compiti, le verifiche e quant'altro. Ciao Gore, Andrea, che stavi dicendo, scusa? Aspetta, che ti dico questa che è bella. Sai quante lezioni, che Parenzo tanto parla, iPad, connessione tutta, in due mesi, sai quante lezioni hanno fatto, hanno fatto con i dispositivi da casa, sai quante? 30% zero, di zero, zero, no, zero, mia figlia zero. Le ha fatte, mia figlia le ha fatte. Mia figlia no, ad esempio, nella scuola mia figlia non le ha fatte. Elementari e medie, dove abito io, ma infatti è già tutto un delirio. Mauro, ciao, ciao Andrea, Mauro da Messina, vai Mauro. Eppure qualche testa di cazzo che sostiene queste veste di minchia del governo c'è ancora. Questa banda di dilettanti e di Messina sono tutti così, come il sindaco, uguale. Ma è una concentrazione di imbecilli rara a Messina, ma non è possibile. Ma che immagine diamo di Messina? Ma che immagine diamo di Messina? Che immagine diamo di Messina? Che immagine diamo? Una città straordinaria. Ci sono presi le mascherine questi conigli a Montecitorio, coglione! E non glieli hanno dati ai dottori e i posti di rianimazione. Quello, è, quello era Palazzo Chigi. Quello era Palazzo Chigi. Calmiamoci un secondo. Calmiamoci un secondo. Però calmiamoci un secondo. La cosa che mi dispiace. E poi c'è il discorso. No, la cosa che mi dispiace è che purtroppo se ne vanno con Mattarella. Mattarella non si tocca. Se ne vanno sempre i migliori e altri restano, purtroppo. Cosa dici? No, voglio dire, purtroppo il Covid si è portato via i migliori e qualcuno invece rimane. Nessun riferimento, ovviamente, fermo con Mattarella. Dopodiché il danno che tu stai facendo all'Italia, caro Cruciani, è quello di rappresentare Messina come un covo di idioti, cosa che non è, perché se gli unici due di Messina che tu interpelli sono il suo autorevolissimo sindaco e questo suo concittadino, l'immagine di quella città ne viene anche, anche il nome Mauro, allora, anche il nome Mauro in generale. Sì, no, ma no, il fatto che sia Mauro da Messina, poi Cateno De Luca, sindaco di Messina, Mauro, dai dici? Un'immagine devastante fatti della città. Crescere il cazzo! Mauro, che dici? Quello insulta. Perché trasmissione appoggia questo cazzo di governo che prima di pubblicare i decreti li dicono. Pubblicare i decreti, ma questo è bello. La gente, questi sono, i decreti, questi sono i questi sono. Ma io gli ho detto al sindaco qua a Messina: non ti preoccupare, ecco. Non lo sa che c'è il virus a Messina. Lei ancora gli deve arrivare. A lui piace il sindaco, immagino. Ancora non gliel'hanno detto alla Lamorgese che qua ci sono, qua c'è il virus. Quando arriverà a saperlo, chiuderà come ha chiuso la Sardegna. Mauro da Messina, ma come si non fa? È colpa sua. Il Mossad gli ha riferito qualcosa, ma non gliel'ha detto. Ora, caro testa di minchia, ma sono tutti così a Messina, no? Per fare crescere il cazzo in testa, così cresce un poco. A quelle veste di cazzo degli amici tuoi di negri di merda. Ma perché c'entra? Ma perché? Di non rompere il cazzo. Ma perché? Di andare a sbarcare da quella culo di merda, della tedesca di merda, che se ne manda qua. Ma scusi un attimo. Oppure parla con la nipote di Tupac Amon, la presidente della BCE, che quando io avevo 6 anni Cristo era già vecchia. Ma tu ti rendi conto l'immagine compromessa definitivamente della città? Io non verrei. Io è che so che non sono tutti così, ma io avrei paura di andare a Messina, tutti i cittadini così, compreso il sindaco. Ma non ci andrei mai. Però per fortuna so che non è così. So che la città non è popolata da sti coglioni. Per fortuna. Per fortuna. Devi dire al presidente. Tu sei un babbo. Tu sei un babbo. Sei. Eccolo, ecco babbo. Ecco babbo. Ma quanto si agita? Ma quanto si agita il babbo? Un altro da Messina, fermo, Lucio da Messina pure. C'è anche Lucio da Messina. Vediamo se è più lucido. Lucio vediamo, da Messina, facciamo. Lucio? Ciao, Cruciano. Dimmi Lucio, che succede? Che succede? Lucio, riscatti la città. Dimmi, dimmi, dimmi. No, non si sente niente, Lucio. Non posso peggio ancora. Seguirti. Fermo, ma a Messina c'è un'immagine devastante quella città. Devastante. Quello che non si sente, il sindaco e sto idiota. Mauro. La Zanzara. Con comunque mi stanno divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. Una cosa la devo dire, almeno il coronavirus è servito a qualcosa, viva il Dio. No, così il 25 aprile non andranno in piazza le bandiere, l'oro, là, l'Ampi e compagnia bella, perché anche per loro che c'è il divieto. Hanno finito di sgambettare il 25 aprile a farci il lavaggio di cervello. No, spatalo. Se dipendesse da me la cancellerei e basta. Però quest'anno il coronavirus ci ha dato una mano. Ci risparmieranno le loro adunate. Chi era quel cretino di poc'anzi? Un infame, no? Infame. Allora, ti leggo alcune cose di oggi, titoli di oggi dai siti, dalle agenzie, eccetera, per farti capire il caos anche informativo. La gente si trova di fronte a notizie le più disparate e giustamente dice, vabbè, sti cazzi, mi ascolto questa disgraziata trasmissione, almeno sento matti, sesso, gente che ha teorie strane, bizzarre. Deliri? Che, no, deliri, ma che deliri, alla fine... Tutti, sì, ma in questa situazione, alla fine, i deliri qualche volta si risultano anche più credibili delle cose che dicono certi virologi. Ti posso assicurare, allora, Ilaria Capua, virologa ascoltata da moltissime trasmissioni. No, ma senti. Chi ha gli anticorpi può uscire, è inutile tenere tutta la popolazione chiusa dentro casa e bisogna andare a caccia degli anticorpi rovesciando l'approccio. Benissimo, gli ospedali non sono più al collasso, mi ha fatto emozionare. Gli ospedali non sono più al collasso, ora sono un punto di forza, il virus non si estingue da solo, facendolo uscire possiamo combatterlo, eccetera, eccetera. Benissimo. Poi leggo in contemporanea che c'è uno studio in cui si dice che questi famosi anticorpi che tutti noi speriamo di avere, eccetera, eccetera, in realtà dai primi test sono rintracciati in una piccolissima parte della popolazione che era positiva. Dunque, già prima cosa contraddittoria. Poi leggo, coronavirus, positivi primi risultati al Remdesivir, altro medicinale ancora, altro antivirale, dopo quelli che abbiamo ascoltati, l'Avigan, che era un'altra cosa naturalmente, poi altri ancora, ma la cosa è incredibile, incredibile. Zaia, dal Veneto, chiave di volta, il farmaco per tumore alla prostata. Pare che ci sia un farmaco per il tumore alla prostata che ha effetti positivi. Ragazzi, ma è incredibile. Poi, sempre nella giornata di oggi, l'ha detto anche lui. Era quello che voleva sperimentare, per carità, poi Zai ha fatto benissimo, eh. Voleva sperimentare l'Avigan del Giappone. Lopalco, sai chi è Lopalco, no? Altro virologo che abbiamo conosciuto in queste settimane. Lopalco, che è responsabile della, no, di questo comitato in Puglia per, contro il coronavirus. Non c'è farmaco miracoloso, non penso lo avremo. Ma scusa, allora che cazzo? Ogni giorno esce fuori un farmaco nuovo, arriva Lopalco. Ma nessuno persona... dice che è miracoloso. Stava valutando l'incidenza e l'impatto che hanno questi farmaci. Ma è incredibile o no quello che ti ho letto? Persone. È incredibile o sì, no? Sì, ma siccome, scusa, l'equivoco è che siccome sono pochi, tu devi avere tanti casi per capire Meluzzi, se funziona. Ecco, lui mette Meluzzi. E lui mette Meluzzi. No, Meluzzi. Per far chiarezza, lui mette Meluzzi. Ma cioè, siamo al delirio, no? Meluzzi. Le chiese, si può andare liberamente in supermercati la cui igienicità dell'aria forzata è ampiamente in discussione, si può andare per comprarci un pacchetto di popcorn, se uno lo desidera, anche alle 6 di sera, però per esempio le chiese, che sono notoriamente di luoghi alti, areati, non sono percorribili neanche da una persona alla volta, per esempio. E di contraddizioni di questo tipo, in queste misure, ce ne sono un'infinità. Poi ragazzi, mani al pacco o toccate ferro, se siete donne o non so cosa usate, eccetera, moriremo di fame o di follia. Di follia è un'autobiografia, nel suo caso è un'autobiografia. O ci fa ripartire in qualche modo questo paese o siamo fottuti. Non conteremo i morti, ma non i morti di virus, che ancora adesso si attestano ad un numero non molto superiore ai morti di polmonite dei due anni precedenti, e questo lo dice l'Istat. Ma non usciremo perché moriremo di fame o di follia. Però è un po' contraddittorio Meluzzi, perché in realtà è uno di quelli che ha sempre sostenuto, diciamo, la chiusura. È stato allarmista all'inizio. E adesso dice che moriremo di fame. No, aveva ragione. Ha quella capacità, come dire, di mettersi sempre sulla scia di quello che sente, di quello che percepisce, no? Quindi è stato comunista quando bisognava essere comunisti. Poi è stato socialista craxiano, poi Forza Italia, ora Fratelli di Zona, vicino alla destra. si sono commessi errori su errori, perché abbiamo ormai nei caseggiati delle caposcala o dei caposcala, tipo quelli dell'Ovra, del ventennio fascista, che stanno là dietro la finestra a vedere chi esce o non esce, certo. Chiamiamo, se la vedo uscire chiami i carabinieri. Cioè, vi ricordate cos'era il caposcala? Era un individuo investito dal podestà che doveva controllare le condotte morali dei cittadini e del caseggiato. Benissimo, potete dire, e se postate questa cosa mettetelo nel titolo, che io temo l'arrivo dei caposcala. E andiamo a Lucio da Messina, se ci sente. Lucio, ci senti o no? Ti sento, mi senti? Sì, ti sento, allora che vuoi? Stamattina ero in terrazza. Sì, eri in terrazza, bene. Come adesso, sì? E vedo una scena. Sì, che scena? Uno correva sulla spiaggia, sì. Arriva una macchina dei carabinieri, sì. Si ferma sulla strada, scendono in spiaggia due di loro, sì. Erano in due comunque, e lo inseguono. Sì. Questi erano due panzoni. Ma perché i panzoni? I due carabinieri normali? Due panzoni. Ma ne hai visti i carabinieri qua come sono in Sicilia? Ho capito, ma non è che per forza devono essere due panzoni. Quelli di Messina sono strani, A Messina sono strani. E di Messina pure questo? Sì, di Messina, sì, di Messina. No, ragazzi, niente, 3 su 3. Scappa, naturalmente era un runner. Abituato, scappa e ritorna sulla strada. Allora? Io mi apro il cancello e lo faccio entrare e l'ho fatto fuggire. Cioè hai salvato un runner dalla multa praticamente. Ci stai comunicando che hai salvato un runner dalla multa. Lucio da Messina, ex legione straniera, ha salvato un runner dalla... Io ho visto qualche foto di questo Lucio da Messina, che è incredibile, non so se sia vera questa foto qua. Immagino di sì, perché c'è una foto in cui c'è questo signore anche di una certa età, perché c'ha tutta la pelle rugosa, tutta la pelle un po' striata, tutta la pelle un po' rovinata. 74 anni. Beh, 74 è una bella cifra. 64, vabbè, comunque hai 10 anni più di me, 10 anni, un po' più di 10 anni di me, ma comunque non è quello il punto. Però sei muscolosissimo ancora, Lucio, cioè sei una persona, cioè fai quasi paura, ma credo che quello sia un montaggio, sei quasi un culturista, o no? Non è un montaggio, ti posso mandare anche altre foto. Ma no, per carità, no, adesso non esageriamo, insomma, comunque sei uno dal punto di vista muscolare dotatissimo, o no? Mi vengo in forma, ero un militare, mi alleno 6-7 ore al giorno. Sì, ma tu quante persone hai ammazzato in vita tua nella legione straniera? Beh, tante. Cioè, tante, ha ammazzato un sacco di persone. Non ce n'è uno di lucido per ora da Messina. C'è un'immagine devastante della città. Comunque, cioè, quante persone hai fatto calcolo di quante persone hai fatto fuori? No, è impossibile. In Indocina, qualche persona avrei fatto fuori o no? Ma in quando Indocina, spari, non è che sei certo di aver ucciso una persona? Lei sì, sicuro che parla tante cazzate. Sì, avrei visto. No, è tutto vero. Avrei visto qualche cadavere davanti a te o no? Sì, sì, ma come? Migliaia. No, beh, sì, d'accordo, visto, ma tu che con una fucilata, con un mitragliatore, che cos'è che usavi? Mamma soprattutto? Mia. Mitra, pistola. Fammi dell'elicottero mentre lo intervisti su questa tema. Senti l'elicottero, perché ecco. Del Famastica, il fucile in dotazione alla legione. Qual era il fucile in dotazione? Hamas. E fucile automatico. Manifestura Armée Sante Vienna. Ma quanti ne hai fatti fuori con quel fucile? Senti l'elicottero. Quanti ne hai fatti fuori? Li hai visti veramente? Eh? Gli elicotteri tu non hai mai visti in azione. Ma no, l'ho visti, sì, certo che l'ho visti gli elicotteri, figuriamoci se non l'ho visti. Vabbè, in azione no, in guerra. No, in azione in guerra no. Allora, quando tu stai in una missione, stai sparando sul nemico. Generalmente il nostro schieramento spara in determinata direzione, no? Sì, ma tu a te ti dava l'adrenalina, il fuoco, il piombo, ti dava un po' di adrenalina quando abbattevi qualcuno, no? All'inizio, dopo tanti anni, no. Dopo tanti, quanti sei stato nella legione straniera? Sono stato dal 72 al 2016. 2016? Dal 72 al 2016? 44 cioè, anni. Ti consideri praticamente una sorta di assassino, o no? No, non sono un killer della legione straniera, o no? Non sono un assassino, ero semplicemente un soldato come... Parenzo è terrorizzato. No, sono terrorizzato dall'immagine di Messina. Voglio dire, abbiamo sentito il suo sindaco che già conosciamo, l'altro demente Mauro da Messina, e ora c'è pure la legione straniera. Ragazzi, io alzo le mani, che vi devo dire? Il commilitone. Alcibiade da Milano, proseguiamo. Alcibiade. Mamma mia, ragazzi. Alcibiade, no. Cruciale, calma. Sì, certo. Ho studiato alla scuola di Socrate. Alcibiade. Alcibiade, certo. Alcibiade, ok, Alcibiade, Milziade, Temistocle, okay. Dimmi, che cosa mi vuoi dire, Alcibiade? Era un militare e politico ateniese straordinario. Senti questo, certo. Attorno al 400... Grande, però, però tu puoi avere il telefono, io non ce l'ho, No, scherzavo, ascoltami, Cruciani, tra l'altro il rapporto tra Alcibiade e Socrate, se non ricordo non male, ce ne insomma... adesso, dai, Alcibiade, dimmi, sì, dai. Ok, allora, io ho fatto la galera, ho fatto la tossicodipendenza, ho fatto le rapine, io ho fatto tutto. No, ma io alzo le mani al cielo, ma mi dispiace, io metto anche nei panni dell'editore della Confindustria, cioè, del nuovo presidente di Confindustria, anche, ma no, ma non solo in generale, degli amici che ci mandano in onda tutte le sere, che abbiamo ascoltato un pazzo da Messina, uno della Legione Straniera, adesso parla uno, ma sì, io sono stato un brigante, ho fatto questo, ho fatto quello, sì, un po' di galera, sì, un piccolo, sì, tutto normale, tutto normale, ma è normale perché ascolta, la vita è questa, amico mio, la vita, ma non è fatta soltanto di ladri, la vita è di malfattori, però. Ma sei anche stato un ex tossico? Sei anche un ex tossico? Certo, un ex tossico, certo, un ex rapinatore. Ho fatto 11 anni di carcere, ho fatto San Vittore. Cioè, grazie per aver chiamato qui. Ma ti facevi l'eroina di che cosa? Ma perché vuoi entrare nei particolari? Mi facevo di tutto, ma ascolta, mi fai dire quello che voglio dire gentilmente? Ascoltami, Alcibiade, voglio dire una cosa. Quando è partita il Covid-19 nelle carceri, che hanno detto che sono morti 10 detenuti perché hanno cercato di assaltare durante una... Vabbè, allora? È impossibile. Hanno detto che sono morti perché si sono sfondati di farmaci. Allora, prima... Alcuni pare di sì. No, assolutamente. Allora, prima di arrivare all'infermeria. Vabbè, ma Alcibiade, perché hai chiamato? Per raccontare una cosa che è successa un mese fa ormai? Cioè, ormai è finita quella roba là, non c'è più. Ma cazzo, dici niente? Lì sono. Ma ho capito, ma. Cosa vuoi parlare? Si parla dello squirting? Ma no, ma ho capito, ma che è successo un mese fa? Ne abbiamo parlato, punto e basta, chiusa lì. Cioè, tu, se ci vuoi dire come fanno entrare, come fanno ma a fare. No, ma ascolta, hanno detto una minchiata, non potevano sfondarsi di farmaci fino all'overdose. Loro hanno detto che durante i colloqui, siccome non facevano più i colloqui, non potevano più portare dentro. T'abbraccio, Antonio da Salerno, vai. Antonio, dimmi. Buonasera, volevo sapere da Parenzo, sì, che ne pensava dei presunti profughi che abbiamo visto per Striscia la Notizia lì, sì, a Milano, come no, assolutamente, a Padova, tutti ammassati a spacciare come se niente fosse. E volevo sapere che cosa ne pensa. Noi intanati come topi in casa che ci beccano, ci fanno un culo così. E questi a spacciare indisturbati, dici tu, no? Indisturbati. Senza problemi, male, così male. Cosa ne pensi? Tra l'altro oggi ho visto delle dei reati, male. Ho visto delle immagini, caro David, tutti di immigrati ben, che tutti ben vestiti, non so se hanno notato, tutti ben vestiti. No, ben vestiti non lo sappiamo. Quindi chi commette un reato? Tutto Armani, male. Tutto vestito Armani. Volevo sapere, insomma, com'è la cosa. Se è normale tutto questo? Non è normale. Chi commette un reato qualunque colore. Scusami, della David, faccia ci sono delle immagini giallo, oggi nero ci, o bianco. Ci sono delle immagini oggi di immigrati, c'è una polemica, non so in che posto, in Liguria, che giocano a pallone irregolari dentro. Vanno regolarizzati. No, ma chi t'ha detto? Subito, per ragioni sanitarie nostre e loro. Ma scusa, secondo te possono giocare a pallone, sì, insieme dentro, ma, nel posto dove sono ospitati? E che devono fare? Devono stare a guardare la tele tutto il giorno del debbio? Non ho capito. Devono stare a guardare tutto il giorno Rinaldi alla televisione? Così già sono migranti, in più rimangono, stanno lì a guardare Rinaldi, cominciano a diventare rincoglioniti pure loro. Ma stiamo scherzando? Sono giovani, giocano a calcio fuori. Che devono fare? Ma qual è? Se stanno in un campetto che è la loro casa, dove sono in custodia, diciamo, no? Con le ONG che li seguono e quant'altro. Allora, capito, non possono giocare tra di loro a calcetto. Ci dovrebbe essere la distanza, tra di loro la distanza sociale. Ma tra di loro. Loro, se sono, ma sarebbe come se io con i miei figli in terrazza gioco a calcio, ma non posso giocare a calcio 30, con i miei 40, figli. Ma lo so, ma comunque. E che c'entra? Se stanno tutti insieme, non escono. No, devono guardare il debito tutto il giorno. E fatti guardare il debito tutto il giorno. Ma sei strano, forte. Almeno Enzo guardassero la 7, se non altro. Enzo almeno. Enzo eccomi. Buonasera a tutti. Purtroppo devo raccontare una triste novità. Qual è? No, meglio, una triste realtà, perdonata. Qual è? Che non faccio sesso da 16 anni. Ma non è vero, dai, Enzo.

Secondo te in Israele bevono piscio? Cosa perde l'urina? Senti, se tu vuoi continuare a berti l'urina, puoi bertela a litrate, ma non devi dire stronzate. Ma certo, puoi fare anche i gargarismi, puoi fare anche i gargarismi se vuoi. Ma non tu in questo quello così, che fai tu. Così saccente che non sai che i virus caverna, li autoproduciamo noi. Sì, ma ho capito. Ogni giorno. Ho capito, ma non può essere tutto una scusami. Sì, però scusami Gianpaolo, non può essere tutta una farsa l'incubo in cui è siamo Bill Gates, Rockefeller e i finanzieri rothschildiani. Che fanno ancora tutto la manfrina, il cinema. Cioè, non ho capito. Allora, che sto c'è dappertutto, poveretto. Cioè, le nazioni, per come è successo già in Italia, si sono comprati le aziende che contavano quando è caduta la borsa. E dunque, che cosa, tutta questa cosa qui, in cui il mondo è tutto bloccato, è opera di Rockefeller, Rothschild e quattro famiglie, secondo te? E difatti l'OMS ha scritto nelle sue dichiarazioni, ad esempio, che la mascherina non serve a un cazzo. Poi ci sono i pirla in Italia che fanno quello che dicono i loro padroni e allora mettono fuori dei decreti senza approvarli entro i termini di legge perché siano leggi, li spacciano per leggi con le loro imposizioni di forza, di autorità e non di legge e il coglione e il gregge esegue, si mette a 90 gradi e se lo fa mettere dappertutto. Ma secondo te bisognerebbe riaprire tutto immediatamente tutti fuori? Certamente, tutti fuori così. Non c'è nessuna infettività. Ma no, ma come fai a dire una cosa del genere? Tutti? Ma Parezzo, digli qualcosa, dai, su. No, ma digli qualcosa. Scusami, non devo dirgli niente. Sto semplicemente chiamando l'ambulanza. Pronto? Sì, c'è chiama l'ambulanza. Poi te la mando. Dove devo mandarla? In via? Dove sta questo? Dove sta questo? Io il carabinieri. Dove abiti? Dove abiti? Dove sta questo che gli mandiamo l'autoambulanza? Dove abiti? Dai. Dove abiti? Io sto in Lombardia, certamente. Cioè, ma Lombardia? Ma roba incredibile. Cioè, tu stai uscendo tranquillamente, ti fai i cazzi tuoi normalmente, esci. Ma certo, è ovvio. Cioè stai praticamente confessando. Esco e mi faccio i cazzi miei. Questo è il punto. Certo. Non devo rispondere a nessuno. La salute è mia e la gestisco io. Ciao Gianpaolo. Ciao Gianpaolo. Ciao, buonanotte. Incredibile, meglio l'urina delle mascherine. Cosa incredibile. No, io non guarda. Stasera non ti capace. Dico per fortuna è venerdì che almeno per due giorni tirerò il sospiro di sollievo. Mi sveglio la notte sognandoli tutti sti mostri. Li sogno la notte. Allora, Vercelli, intanto un sacerdote è stato fermato in auto e ha evitato la multa, pare. Sì, sì, sì. Ha evitato la multa, sembra. Perché ha detto ho letto tutto. Vado a fare un esorcismo. L'autocertificazione che il sacerdote ha presentato era inoppugnabile, corredata dalle credenziali firmate dall'arcivescovo. Tu ti rendi conto che abbiamo avallato, abbiamo consentito. No, abbiamo consentito che un esorcista, che un signore dichiaratosi esorcista, poi l'arcivescovado ha corretto dicendo che questo signore non è un religioso che opera su, insomma, c'è tutto un contenzioso. Comunque questo qua è stato lasciato andare mentre la gente viene multata perché ha detto: io sono un esorcista e vado a fare un esorcismo, un prete. Roba pazzesca. Gianluca da Rimini, vai Gianluca. No, c'era Enzo da Cuneo, però mi pare totalmente improponibile il fatto che dice, fatto che dica che negli ultimi non c'è Enzo da Cuneo, no, perché era un coglione. Gianluca da Rimini, vai Gianluca. Ciao Cruciani, buonasera. Ciao Gianluca, dimmi. Allora, io mi presento, sono uno chef di un ristorante, lavoro a Cesenatico. Volevo chiedere a Parenzo se era prevista l'assunzione di un cuoco a casa sua, diciamo. Beh, questo potrebbe essere buono, dato che oggi l'abbiamo visto in grande spolvero su un terrazzo romano. Un terrazzo romano di casa tua in collegamento con una televisione, con una magliettina firmata. No, era un maglioncino. Ma come facevi a sapere che è firmata? Scusa, perché l'ho visto in televisione. Ho visto in televisione dei frame di cotone normalissimo. Maglietta firmata, sole che batteva. Non è una maglietta, era un maglioncino. A un certo punto si è vista, ti ripeto ancora, si è vista il braccio di una donna, presumibilmente di colore, che ti versava, ti portava. Non esiste nessuna, ti portava una colore, spremuta d'arancia sul tavolo. Lui giustamente, Gianluca dice: serve per caso uno chef, essendo in questo momento immagino disoccupato. Siccome Cruciani ammiro molto diciamo, il ma mondo... sei disoccupato in questo periodo, immagino, no? Beh, adesso siamo in attesa di riaprire, quindi però sinceramente... No, sai, invece, quello di cui si può, di cui io in passato ho fatto uso, ma in questo periodo sono a casa, è lo chef a domicilio. Quello è un grande servizio, cioè ci sono degli chef a domicilio, solo che adesso non si può fare perché ovviamente lei che non può venire, ma in passato quando organizzavo le cene a casa facevo gli chef, chiamavo lo chef a domicilio, veniva a casa e la gente muore di fame. E la gente era a confronto con qualcuno che ti toglie la pelle, stai parlando di chef a domicilio, c'è qualcuno che ti dovrebbe togliere la pelle. Ho detto in passato, ho detto sei venuto anche tu a cena da me, scusa. No, è una cosa che diciamo adesso in Italia non va molto di moda. Io siccome ho lavorato negli Stati Uniti a Miami. Vabbè, comunque non ti può assumere adesso. Sì, sì, a Miami, a Miami funziona la grande, è vero, bravo. La Zanzara. Subhanahu yursilu jundiyan wahidan fa kayfa law kanat 50 min corona. E voi sapete che io ho depositato nei giorni scorsi una denuncia. Senti, Lucio, tu non mi hai chiamato più, io sono sempre il padre di quel ragazzo che è stato ucciso. No, non sei. Hai solo speculato, poi non mi hai chiamato più. Io sto aspettando sempre una tua chiamata. Ma no, per riconciliarmi, altro che ci si può riconciliare con te. Comunque ragazzi, il lockdown fa male, eh? Io me credo, almeno credo di meritarmela. Lockdown fa male. Fai come vuoi tu, fai come vuoi tu. Mi fa sta male, sento dalla voce che sta male. Allora, ricevo e volentieri, sai come si diceva una volta, no? Come si scriveva, riceviamo e volentieri pubblichiamo. E volentieri pubblichiamo. Ricevo e volentieri leggo. Era bellissimo. La salute innanzitutto, ogni altra considerazione va considerata secondaria e quindi l'alcol fa male, 1250 decessi annui senza contare i danni correlati, dati ANSA, e va immediatamente proibito in tutte le sue forme. Bloccare la filiera vinicola subito, non per 2 mesi ma per sempre. Non si contano i cibi dannosi per la salute, un buon quarto di quello che mangiamo ci fa male. Bloccare subito, senza se e senza ma, la produzione di zucchero, carni grasse, derivati dal latte, bevande gassate, la lista completa verrà diffusa con il prossimo decreto. Ma stiamo dimenticando il killer numero uno, l'auto. Lo scorso anno 3.500 morti e 240.000 feriti in incidenti stradali. Dispiace dirlo, ma la produzione di auto va subito fermata e per sempre. Fortuna che in Italia ormai non era rimasto neppure un produttore. Peccato per la Ferrari, ma d'altronde è ovvio che gli sport pericolosi, automobilismo in testa, diventeranno un ricordo del nostro barbaro passato. Così come motociclismo, ciclismo, box, alpinismo, corsa ostacoli, lancio del peso, per la lista completa molto lunga, vedi il relativo decreto. Anche uscire a piedi non è privo di rischi. Senza le auto non si sarà più investiti, ma se si scivola su una buccia di banana, meglio stare in casa, o no? Ogni anno 4,5 milioni di incidenti domestici, di cui 8.000 mortali, ustioni, cadute, feriti da taglio, shock elettrici e quant'altro, una strage. Un'apposita commissione formata da 354 membri esperti studierà a fondo il problema. Facile prevedere che saranno proibiti i coltelli, le prese elettriche, i fornelli. Naturalmente si dovrà fare a meno del pericolosissimo riscaldamento. Dura la vita per il coscienzioso leader politico preoccupato per la salute del suo popolo. Nuovi pericoli vengono sottoposti alla sua attenzione quotidianamente. Oggi un'interrogazione parlamentare sui rapporti sessuali ha giustamente sottolineato che oltre al devastante pericolo delle malattie venere c'è da considerare la conflittualità nella coppia, che può degenerare in violenza. Sarà bene proibire anche i rapporti fra i due sessi, non si sa mai. Si dice che così la specie si estinguerà. È una cosa certamente spiacevole, ma con la salute non si scherza. Qualche danno collaterale bisogna accettarlo. Beh, è un grande quello che l'ha scritto, magari non sono d'accordo, però è un grande. È un grande. Michele da Bari, vai, Michele da Bari. No, niente, ciao ragazzi, buonasera. Volevo semplicemente sollevare questa faccenda. Sto sentendo in diverse trasmissioni questi giorni che si sta pensando di regolarizzare la posizione dei migranti. Dei migranti rispetto ai clandestini e quant'altro. E la ministro Bellanova ha detto questa cosa qua. Allora? Già di per sé, a mio avviso, chiaramente, la mia opinione, questo è un obbrobrio. Ma al di là di questo, ma non si sta dando secondo me il giusto rilievo alla faccenda che sta accadendo a Verona rispetto all'albergo, dove ci sono 101 migranti. Sì, l'abbiamo detto, ci sono 100 immigrati contagiati e vabbè. Ma tra l'altro stanno rompendo i coglioni più che perché vogliono uscire. C'è un presidio fisso di forze dell'ordine a presidiare, cioè tolti dalle strade a fare la guardia, si rompi e coglioni. Qual è la tua indignazione? Che ci sono la polizia impegnata in questa cosa qua? E noi siamo tappati in casa e cerchiamo comunque di rispettare le regole. Lorenzo, come vuoi rispondere a questo Michele da Bari? Cioè, rispondi un po' a questo Michele da Bari. Quello che potrei dire a questo Michele da Bari è anzitutto magari di farsi visitare da qualcuno. Ci sono degli psicologi che hanno dei numeri di telefono e con cui lui può iniziare una sorta di terapia. Perché sei indignato per questa cosa qua degli immigrati, non l'ho capito. Una terapia, no, io ho suggerito senza urlare, una terapia al telefono con degli psicologi con cui può cominciare a parlare e capire qual è il suo malessere, perché il malessere è suo, non degli immigrati che avranno i loro problemi. Lui ha un malessere e riversa sui migranti il suo malessere. Allora, se lui chiama il numero verde, ad esempio anche nella sua regione, l'assessorato agli affari sociali, avrà sicuramente dedicato una linea telefonica per persone come lui. Volevo dire una cosa: noi dalle parti nostre a Bari abbiamo una netta differenza tra due termini, cioè il coglione e il trimone. Il coglione lo bisogno, è nato, il trimone lo è diventato. Ha bisogno anche di farmaci, sai? Ha bisogno anche di farmaci, oltre che della telefonata della psicologa. Anche ho sbagliato la terapia. Aspetta, chiedo Michele, scusa, ho sbagliato la terapia. Ho sbagliato la terapia. La diagnosi, scusa, la diagnosi. Che è sto rumore? Sei tu o Parenzo? Parenzo, no, questo l'ha messo, sei no, tu? No, ma che l'ha messo la corte. No, no, io non ho quel rumore lì sempre adesso. Sto non cazzo possibile. Di cielo, tu, ma non è mio. Sarà un messaggino. Cosa pazzesca. Non è il mio, però stavolta. Allora, ragazzi, è quell'infame di la corte che mi mette in difficoltà con l'azienda. È in collegamento da Schio, una delle più giovani ma in realtà già promettenti. Schio, sai dov'è Schio? Lo sai, Schio, no? Provincia di Vicenza, oh, provincia di Vicenza, in certo. Collegamento da Schio, una delle più giovani lanciate, già fermate. Un posto che conosco solo per il cartello sulla strada, perché non mi sono mai fermato. Un e posto dovresti andare perché c'è non una, invitante. C'è una signorina. Quindi io passo da Schio quando vado su in montagna ad Asiago, ad esempio, passo da Schio Marostica, capito, ma quella zona dovresti lì. Dovresti fermarti su. Perché c'è una non signorina. Non me ne frega niente di Schio, me ne frega niente. Ma c'è una di signorina molto interessante che abita a Schio, è una ripeto, una giovane pornostar ma già affermata e lanciata, eccola, che si chiama Marika Chanel. Buonasera, ovviamente nome d'arte. Marika, dimmi. Ciao, eccoci, buonasera qui. Senti, ma dove stai passando buonasera, questo signora. Periodo? Sei rinchiusa in casa, immagino, no? Eh beh, certo, siamo tutti dai genitori o da sola? Dai genitori oppure da sola? No, no, da sola, da sola. Da sola. È una quarantena molto... molto come? Da sola, sì, triste, molto Schio, triste. Schio, peraltro, è una cittadina che, come dicevo, conosco perché ci passavo per andare in montagna, ed è vicina a un'altra cittadina che si chiama Gazzo Padovano. Gazzo, forse più... No, no, sei fuori zona. No, non è vicino a Gazzo. Ma non sai nulla, David, non sai nulla. Non è vicino Arzignano, a Gazzo Padovano, come? Non è vicino. No, però è vicino a Marostica Schio, scusami. Ma che te ne no, frega non adesso? Ma che non siamo vicino a Marostica Schio. Marostica, vabbè, comunque devi sapere, caro Parenzo, che con la sua sorella, la signora Marika Chanel, qualche tempo fa andò a fare un provino dal signor Rocco Siffredi, dopodiché fra poco doveva andare a fare anche a girare delle scene negli Stati Uniti, il grande sbarco negli Stati Uniti. Sì, purtroppo sì, è stata bloccata dal coronavirus, sai come il film di Sordi, no? Ma bloccato il coronavirus. In questo caso l'ha bloccata il coronavirus. Però voglio dire una cosa, avete fatto insieme ad altre tue colleghe una lettera al Presidente del Consiglio in cui volete sostanzialmente dei sussidi, cioè la pornostar chiede il sussidio. Come mai chiedete questo sussidio? No, non solo per le pornostar, parliamo anche per tutto il mondo notturno. Sì, comunque tu in particolare per il tuo mondo, il mondo dell'intrattenimento erotico, diciamo, chiedi un sussidio perché dici, cazzo, noi siamo una filiera fondamentale nella... Certo. Cioè facciamo godere le persone. Sì, diciamo che siamo molto seguite giornalmente, quindi... Ma scusa, ma quanti soldi vorreste voi? Spiegami. No, fammi un esempio, quanti soldi hai perso tu in questo periodo? Non saprei più o meno quanti soldi puoi aver perso. Molti soldi, Molti soldi, certo. Molti soldi. Secondo te è giusto, Parenzo, dare dei soldi alle pornoattrici in questo periodo? Cioè a coloro... No, alle pornoattrici, quando pornoattrici no, alle persone che hanno perso il lavoro, in quanto hanno perso il lavoro, sì. Scusami, adesso la signora, io non so di cosa si sia occupata prima di fare questo nobile mestiere. Lei prima di fare la pornoattrice, che cosa faceva? Che cosa faceva lei? Dimmi, Marica, dimmi. Ma una pornoattrice, come tante, anche escort, anche spogliarelliste, sì. Adesso sono tutte a casa, sì. E non percepiscono niente. Sì, giustamente dovrebbero avere... No, certo, va bene, non questo in generale. Nulla, e che cosa hanno da togliere da tutte le altre persone? Cioè, anche io sono una persona umana, ma certo, ma io non ne sono mica contrario, molte infatti. Molte hanno figli, cioè... Di cosa parliamo? Cioè, no, ma hai perfettamente ragione. Infatti, secondo me non ci dovrebbe essere nessuna discriminazione. Tu sei un'artigiana, infatti, un'artigiana, noi, giovane noi artigiana. In Italia siamo indietro, in Svizzera, in Australia, in tanti altri posti. Sono già avanti. Adesso io non so se danno sono i soldi tutelate, alle... non so se danno i soldi alle pornoattrici. Però fa abbastanza ridere, anche se in realtà è vero, che avete scritto questa lettera al Presidente del Consiglio in cui dite: beh, sostanzialmente abbiamo bisogno anche noi, come tutti gli altri, del sussidio. Secondo te, caro Parenzo, ascolterà il Presidente del Consiglio? Ma no, adesso non penso che tra le tante categorie riceverà Palazzo Chigi pure la signora. Non è riuscito ancora a ricevere gli industriali. Immagino che prima di ricevere la categoria qui degnamente rappresentata da questa simpatica porcellina di Schio, va bene, ci passerà un po' di tempo prima. Dopodiché, se la signora è rimasta senza lavoro, avrà il sussidio. Ma non è che adesso la porcellina può chiedere di essere ricevuta a Palazzo Chigi ricevuta, però giustamente dice nessuna discriminazione nei confronti di persone. Ma nessuno fa discriminazione per sta signora. Ma prima cosa ha fatto prima di fare la ma questa c'ha 23 anni già, che ha fatto niente, che avrà, studierà, che sei diplomata, che hai fatto? Sì. Sei diplomata dove? Qua dove abito io. Sì, ma dove? In che speciale? Diplomata dove? Cioè, ho fatto le magistrali. Ah, le magistrali, molto bene. Scusami Marica, ma voi giustamente dite noi abbiamo una funzione sociale, no? Cioè, alla fine tu ti senti investita. Certo, da... E ma quale... tu pensi che lì in Parlamento terzo piano si fanno le pippe guardando il muro? Diciamo la verità, o no? Sì, guarda, su dici? Questo penso che sia una giusta fotografia. Io penso che giustamente anche in Parlamento guardino ogni tanto i video dove ci sei magari tu, molto, dove c'è qualche altra collega, sicuramente, non c'è dubbio. Senti, tu, tanto per capire, tanto per essere un po', per andare un po' nel dettaglio, in questo periodo tu che sei comunque una frequentatrice del mondo del sesso, non ti manca un po', se sei da sola a casa, se è vero che sei da sola a casa, non ti manca un po' il pisello in questo periodo, o no? No, io comunque ho altre passioni anche nella vita, oltre il pisello, devo dire. Per cui riesci a sopperire a questa mancanza in questo periodo? Sì, assolutamente. Tu devi sapere, Davide, che questa signorina è riuscita a girare dei film anche con trans, anche con i signori trans. Con Trump? No, con trans, con i trans. Ah, no, con Trump, ho capito, Trump, scusami. Con Trump gireresti subito un film con Trump tu? Subito, assolutamente. Beh, bisogna dire che Trump una volta era un grande come dire, apprezzava il mondo del sì, porno. Sì, apprezzava secondo me anche tanti qua in Italia, solo che non lo dicono, ovviamente, più tabù. Cioè nel mondo della politica, dici tu? Sì, sicuramente. Senti, ma non ho capito, tu allora come è stato girare per esempio con un trans? Cioè tu non ti fai problemi, cioè, potresti fare qualsiasi cosa nel mondo del porno, cioè anale, contro anale, doppie cose, qualsiasi cosa. Sono cose che uno si sente di fare. Sì. Cioè ci sono anche tante persone che mi vengono a dire... Io mi vergogno di dire che vado a trans, di dire che ho certe perversioni, che io dico ma perché uno si dovrebbe vergognare? Siamo nel 2020, insomma. No, ma ho capito, ma si vergogna. No, ma questo non c'è dubbio. Io dico, ma è incredibile. No, ma infatti è assolutamente surreale. È abbastanza naturale. No, la cosa incredibile è che la signora Marica Chanel chiede un sussidio anche lei. Questo però io lo trovo giusto. Cioè io lo trovo perfettamente corretto, cioè trovo perfettamente corretto che abbiano anche loro si siano rivolte al premier per dire abbiamo bisogno di un sussidio perché abbiamo una funzione sociale, anche voi in Parlamento adesso, vi fate le pippe ma su di noi. Ha una partita IVA lei? Lei ha una partita IVA? Ma che... Sì, ho anche il mio agente. Ecco, ma tu allora, hai pagato? Non ho capito. Cioè, allora, se c'ha una partita IVA, faccio la richiesta con la partita IVA. Hai fatto la richiesta per i 600 euro o no? No, non l'ho ancora fatta. Ma non l'ha fatta, ma che gli frega. Vabbè, comunque la cosa importante è che questa richiesta arriverà a Conte, che magari vi ascolterà. Ciao Marica, ciao, ti abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. La Zanzara. E ricordatevi che Metallica è l'unico gruppo al mondo che quando lo pronunci ti viene da dire i Metallica. Metallica. Provate a dire Rolling Stones. Rolling Stone non viene. Provate a dire Iron Maiden, non viene. Invece viene da dire Metallica. I Metallica. E mi faccio una prugnetta, mi faccio crociare. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna. Oh, Cruciani, senti, ieri sentivo quella lì di Asiago che sta schizzando perché non c'ha più da fumare. Siccome io abitavo a Vicenza, ora sto a Bologna, voglio darle una mano. Se vuoi ti do il contatto della mia azienda, CBD, legale, tutto legalone. Le piace, le arriva a casa, vedrai che sta tranquilla, non va più in ansia. Diglielo quella vecchia di Asiago, CBD 100% legale, una gran bot, una gran fattanza, tutto legal, e torna a stare tranquilla, altro che vado a cercare quelle piante per il risotto. Crucia, ieri ho visto 5 minuti di pubblicità a Canale 5, minchia, ormai tutte le pubblicità sono indirizzate alla reclusione domiciliare, minchia, ansiolitici. La farina per fare il pane in casa, abbonamenti per internet, Disney, televisioni, ma vaffanculo, portateci l'erba. Ho quasi nostalgia del Brasile, amico mio, quasi nostalgia del Brasile. Grande nostalgia del Brasile, grande, grande nostalgia. Gianfranco dalla provincia di Bari, vai Gianfranco, dimmi. Gianfranco, dimmi. Buonasera Cruciani, dimmi, sì, dimmi. Volevo chiederle cosa ne pensa di questa reclusione forzata, nel senso che... Ma cosa vuoi che ne pensi, amico mio? Ma sono tanto depresso io per questa reclusione forzata. Vengo qua e cerco di, no, in qualche modo di rappresentare questa mia depressione e nello stesso tempo trovare qualche momento di gioia. Che significa che ne penso? Che cazzo di domanda è? Significa che non pensate che sia illegittima? Non è, non lo so, no, alcuni lo dicono, alcuni lo dicono, alcuni lo dicono, Gianfranco, no, anche autorevoli, non c'è nulla. Beh, attenzione, anche autorevoli giuristi lo dicono, non è che lo dico io, come sai lo dicono autorevoli giuristi, per cui ma di che stiamo, Cassese per esempio, ma lasciamo perdere, non ha detto come questo, mai nessuno si ribella. Ma non lo so, Gianfranco, cosa ti vuoi ribellare? Che fra poco tu in Puglia sarai libero. Che cazzo vuoi? Fra poco sarai libero. Cioè, fra poco sarai libero. Sì, ma nel frattempo avuto 2 mesi di reclusione. Questo no, è vero. Io sono libero comunque perché comunque ho sempre girato. Hai sempre non mi sono mai fermato. E perché? Perché però per lavoro? Per lavoro, immagino. Per lavoro, sì, per lavoro. Ah, però vabbè, voglio dire, 2 mesi di reclusione significa aver affossato l'economia. Vabbè, ma nazione. Questo è un discorso che facciamo ancora ormai da un mese, giusto? Giusto, lo sappiamo. Giusto, lo sappiamo, che dobbiamo fare? Lo sappiamo, che dobbiamo fare? Spiegamelo Gianfranco, spiegamelo tu. Niente, dovevamo ribellarci. E in che modo? In che modo? Con che cosa? In che modo? Non dare le autocertificazioni ad esempio ai carabinieri. Ah, non fare la uno. Sai, andare lì e non fare le autocertificazioni, cioè dobbiamo la grande ribellione. Assolutamente. Scusami, una domanda, se il virus poi circolava così, tu che cazzo facevi? Gianfranco, non ho capito. In Puglia ci sono meno di 3.000 contagi. No, no, ma io ti do ragione su questo. Ma infatti, cosa vuol dire? Ma no, meno ma male, cioè, ma proprio perché c'è stato il lockdown, però, e si è impedito a quelli del nord di venire giù ad infettare. Ma dopo Pasqua potevamo riaprire. Ma non lo so, ormai non abbiamo. Arriva lui, arriva lui. Potevano riaprire. Però io lo capisco questo anelito di libertà, questa voglia, questa. Ma tutti abbiamo. No, ma nessuno Gianfranco vuole rimanere a casa. Tutti, perché sono noi. A me piace rimanere a casa. Ciao, Gianfranco, 24 ciao, ore su ciao. 24. Ciao, Gianfranco. Grande Max, grande Max. Ciao, ciao Rocco, grande. Ciao Rocco, ciao. Invita l'amichetto tuo lì davanti, si sceglie la donna, da te in radio, voglio vedere se hai coglioni, si sceglie la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni senza denti con la dentiera e me la inculo e mi inculo pure lui, me lo inculo insieme alla vecchietta. Grande Max, grande Max. Ciao, ciao Rocco, ciao Rocco, ciao. Ti chiamiamo Vittorione, vai, vai, vai, grande ritorno di Vittorio Sgarbi, chiamiamo, vai. Eccolo! Hola. Come andiamo? Benissimo. Senti, ma sei tornato all'attacco su tutti i fronti, mi sembra di capire. Beh, all'attacco, sono tornato a fare delle riflessioni. Tutti i virologi hanno detto l'opposto di quello che poi. Quindi non possiamo in alcun modo ritenere che la scienza abbia dato una posizione certa. Ma anche adesso, ne dicono di tutti i colori, cioè i medicinali che servono, il vaccino serve o non serve, uno dice di sì, l'altro di no, uno dice bisogna allentare, gli altri subito dopo ribadiscono no, è sbagliato allentare le misure, la Lombardia dice una cosa e interviene quello dell'Istituto Superiore di Sanità a dire no, per carità non si può fare, è un delirio, dai, su. Abbiamo rinunciato a alcune libertà elementari sulla base di certezze che non c'erano. Noi abbiamo usato la posizione medievale, potevano usarla nel 1348, siccome non c'è rimedio è meglio stare in casa. Ma perché questi non hanno un piano del cazzo? Perché questo Conte non ha un piano applicabile a tutta Italia? Perché non c'è un piano B, un piano alternativo subito spiegato bene? Perché non c'è? Perché sono incapaci? Perché? Intanto perché sono affidati ciecamente al comitato tecnico scientifico, quindi lo dicono ogni volta, per cui c'è una scientocrazia che ricorda molto Scientology, cioè siamo di fronte ad alcuni personaggi la cui autorevolezza, come abbiamo detto, poi non costante, è stata assunta come un potere. C'è il virus, però non è detto che il virus ostacoli le attività ordinarie, per esempio appunto il tema che ho posto io dei musei, molto più delle librerie, non possono trasmettere lo stato perché non puoi toccare nulla, devi solo guardare. Ho capito Vittorio, però se apri i musei vuol dire la gente entra in contatto, entri dentro i musei, le code. Sì, ma entra in contatto come al supermercato, cioè esattamente una modalità. Chiuso. Capito, però al supermercato ti puoi andare a prendere da mangiare, perché è un bisogno, tu dici è un bisogno pure andare al museo, ma no. No, non è che voglio fare un discorso intellettuale, dico che quella chiusura, come tante altre chiusure, non è necessariamente utile. Come cioè tu le mostre, i musei li riapriresti subito queste cose qua? Mostre, musei, parchi, chiese. Spiagge. Cioè, l'immagine più turpe della violenza fascista è l'elicottero, il drone che vede uno che sta camminando sulla spiaggia e lo fa inseguire dai carabinieri. Ma cosa devono inseguire? Qual è la misura del rischio di un solitario che sta correndo lungo una spiaggia? Fossero anche 100 distanziati a un metro. L'aria aperta è la cosa più sana che abbiamo e questo lo posso dire fino alla morte. L'ha detto Garattini, lo dico io, tant'è vero che in America stanno adesso dando delle concessioni per uscire all'aria aperta perché è molto più sano che stare al chiuso, cioè, cosa che capisce non il famoso virologo ma qualunque persona che usa il cervello. Ma siccome il cervello non lo si usa più perché hanno impaurito tutti, uno ha paura, come dice Gallera, che il bambino scendendo a fare una passeggiata inquini l'aria. Ma come inquina l'aria? Ma che deve inquinare? Ma che stanno dicendo? No, tu dici hanno terrorizzato, hanno inquinato i cervelli, cioè ormai ci hanno costretto a temere l'uscita, cioè a temere. Però posso dirti che su questa cosa qua, Vittorio, io un po' ti do ragione alla fine, perché grazie, sai che abbiamo combattuto, no, lo sai perché? Perché anche dentro di me hanno instillato il terrore. Io che sono una persona libera, una persona che ama uscire, esco da Milano e sono terrorizzato dentro di me, c'è il terrore. In colpa? Sì, ma mi sento in colpa. Sono contento che l'abbia detto finalmente in una trasmissione senza voler fare polemiche per forza. Ti dirò, allora te lo confesso anch'io, io che potrei uscire come parlamentare, potrei andare a Ferrara, a Urbino, vado a Sutri, sono andato due volte, ma mi rendo conto che sto facendo qualcosa di cui ho il sospetto che ci sia un margine di rischio, per cui hanno influenzato anche la mia mente. Io sono passato per un provocatore, ma in realtà provoco solo di rimessa, nel senso che uno mi dice una cosa, io reagisco, come quella dell'aria aperta. L'aria aperta non mollerò mai, cioè l'idea che uno non possa passeggiare da solo a distanza di due metri da un altro la trovo un crimine contro la salute. L'aria aperta è sì, basta che tutti non vadano all'aria aperta nello stesso punto, questo è il tema. Sì, appunto, quindi Vittorio ha ragione nel merito. I virus dov'è che si diffondono? In casa, quando tu stai chiuso in casa, bravo, è più facile prendere il virus, questo è evidente. Infatti devi tenere le finestre aperte. Però perché devi tenere le finestre aperte? Se tu lo dici, qualcuno ti dirà no, tu hai visto i parchi italiani, quando mai hai visto dei parchi degli assembramenti? Il metro o i due metri o i tre metri sono quasi inevitabili, uno corre da solo, l'altro va in bicicletta, quell'altro... Ma poi in questo momento col terrore evidentemente la gente sarebbe a distanza, si manterrebbe a distanza sicura al 100%. Basterebbe questo. Ma chi è il capo di questo gruppo di persone di scienza che ci stanno imponendo queste regole del terrore, secondo te? Cioè quello che appena vedi in televisione cambi, non riesci nemmeno... No, tra l'altro lui manifesta stima nei miei confronti. Io, ma chi? Chi? Si è identificato in Murioni, poi è venuto fuori quella... Il cosa più clamoroso è la figura più... quella di questo Galli che sta nello stesso sacco della Gismondo e dicono due cose opposte. La Gismondo, fino all'ultima volta che l'ho sentita e l'ultima volta che l'ho vista in televisione, no, è meno che un'influenza, no, muore lo 0,01. Poi ha cambiato, poi anche lei ha cambiato. Appunto, però lei ha cambiato, ma intanto l'ha detto fino ai primi di marzo. Io trovo poi anche quello dei medici. Quando è che i medici hanno dominato? Hanno dominato durante il nazismo nei campi di concentramento. Sperimentazione fatta sugli ebrei è una cosa terrificante, perché c'è Mengele, cioè dici... e c'è Schweitzer, sono due medici. Mengele sperimenta sui malati. Stiamo arrivando a una dittatura nazista. Cioè tu secondo te quando i medici i medici comandano è la fine, dici? È la fine della... non so se sia la fine. Certamente no, il medico ha ragione se ti dà una soluzione precisa, dice lei ha questo. Invece, siccome tutti dicono cose completamente diverse, appunto, allora non ti puoi fidare. Scusami, però io posso farti un'altra domanda. Tu come stai vivendo, per esempio, il sesso in quarantena? Perché noi ce lo siamo. È il tema principale per voi, ma io l'ho sospeso da un pezzo, quindi non ho attività. Ma certo che anche quello, però, è un tema interessante. No, ma quello è un tema, appunto, al di là del caso tuo, tu dici puoi resistere, tu riesci a resistere senza trombarti, tu che sei sempre circondato da una specie di harem, l'harem di Sgarbi, sei riuscito a resistere, come cazzo fai a resistere? Questo è il punto, anche solo a sfiorare, anche solo ad accarezzare, anche solo a sedurre, questo è il punto. Ci hanno tolto la seduzione, ci hanno tolto il contatto umano, come fai? Lo strumento migliore è leggere Agamben e ti passa la voglia di fare sesso. Cagare, sì, sì, se uno legge stato di eccezione. Come hai fatto tu, Vittorio? Come hai fatto tu? No, niente, ho letto, ho guardato la televisione. Mi sono posto il problema di un altro paradosso, cioè la massa è quanto di più è legato alla vicinanza. Sì. Abbiamo creato una massa della distanza, è meraviglioso, è un paradosso logico, ma tutti con lo stesso pensiero. Ma è un tema serio questo qua, cioè guarda che la gente sta impazzendo, come no? È un tema serio, però si può utilizzare la presa da dietro, perché c'è la distanza, se non è troppo corta la persona, e la schiena e la testa sono almeno un metro, quindi da dietro si può procedere. Va bene Vittorio, ciao. La Zanzara. Se gli unici due di Messina che tu interpelli sono il suo autorevolissimo sindaco e questo suo concittadino, l'immagine di quella città ne viene anche, molto anche il nome Mauro, allora, anche il nome Mauro in generale. Sì, no, ma anche... no, il fatto che sia Mauro da Messina, poi Cateno De Luca, sindaco di Messina, Mauro, dai dici? Un'immagine devastante Farti della città. Farti crescere il cazzo! Wow! Stop! Beppe, io è da ieri che provo, ma su 5 volte la tecnica del tuo amico niente, una bufala. Ogni volta mi si è rizzato, cioè non c'è niente da fare. Mi sa che il tuo amico c'ha qualche problema lì. Mi sa proprio di sì. Perché non è possibile, cioè, non so. E comunque poi ho dovuto svegliare mia morosa perché il male alle palle era tanto, così carico continuamente, duro, mollo, dai, una vergogna, una vergogna. Pippe. Vai con l'ingegner Negri, mamma mia stasera che carrellata ragazzi, l'ingegner Negri grandissimo, stasera una carrellata incredibile, stasera è un disastro assoluto, incredibile, vai con l'ingegnere, vai. La libertà, un valore immenso che ha camminato di pari passo con la storia dell'umanità, un valore che è come l'aria. Come l'aria che si respira, altro che se uno prende quello, soffoca, muore. L'aria! L'aria! È la libertà! È l'aria! Senza libertà non si vive! Non avete voluto mai fare niente! Ora, per toglierci la libertà, arrivate a questi livelli. Ma io ho detto sempre che questo Stato è a livello di regime. È uno stato dittatoriale, uno stato autoritario. Ma immaginate, adesso io appena esco, tu dove vai? Devi certificare. Ma che cazzo certifico? Ma che volete? Mandate via! Mandate a dare la caccia ai delinquenti veri! Andate a pulire il paese dalla delinquenza! È colpa vostra! Se nel paese c'è la criminalità, non avete fatto mai un cazzo, vi siete svegliati adesso, adesso vi siete svegliati. Le app ve le dovete ficcare nel culo, va bene? Va bene Colao, ficcatele nel culo le app, perché noi non le utilizzeremo mai, mai, mai. No! No! Johnny da Teramo, vai! Johnny! Buonasera Parenzo! Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi! Eccoci qua, due semplici riflessioni. Allora, i primi di febbraio scoppia il casino, ok? Dopo, quindi, gli scienziati, uno è complicato, l'altro non è niente, bene, andiamo avanti. E allora i primi morti, eccetera, eccetera. Però nessuno ha detto una cosa in TV. Che cosa? Le persone hanno continuato a viaggiare in metropolitana fino a fine marzo. Sì, anche è vero, in metropolitana. Beh, sì, in alcuni casi è vero, per motivi di lavoro, per motivi di lavoro, per motivi di lavoro. Non si sono mai chiusi i mezzi, non si sono mai fermati i mezzi pubblici proprio per garantire che il pubblico servizio non venisse. Certo, non si può chiudere per il pubblico servizio. Comunque, sì, l'hanno organizzato male, la gente ha continuato a infettarsi, quello taxi, sicuramente. Perché non devi far girare i taxi? Vabbè, Johnny, allora? Allora dico, quindi, alla fine dei conti, io penso che noi siamo, purtroppo per noi, governati da delle persone, bravissime persone, ma assolutamente incapaci. Basta pensare, e questa è la mia ultima considerazione, che questi signori hanno 300 super tecnici per capire quando fermare il lockdown. Bene, il lockdown cosa vuol dire? Riaprire le attività, ma hanno chiamato per caso qualche industriale e io, a mio modesto parere, in Italia gli industriali che hanno veramente le palle per poter dire la loro, ce ne sono tantissimi. Vabbè, allora non ho capito. Ma non lo so, guarda, posso dirti che questa polemica qui, sì, anche che fa Briatore sul fatto che in questo gruppo di esperti, per, no, me, no, no, per me non conta un cazzo il gruppo di esperti, questa task force, dunque no, meno imprenditori ci sono, paradossalmente meglio è. Non conta un cazzo questa roba qua. Il governo no, poteva... Ma è uno scarico di responsabilità, invece. Ma è uno scarico di responsabilità. Il governo si ma prende le sue Trump responsabilità. Ha fatto una cosa molto simile, il tuo amico Trump ha fatto una cosa molto simile, ma ha chiamato i più grandi imprenditori americani, che infatti hanno un senso del fare. fare. Anche qui sarebbe stato giusto coinvolgere degli imprenditori Roberto che spiegassero da Treviso, come si fanno alcune cose. Dimmi. Cruciani. Dimmi. Buonasera. Approfitto della tua trasmissione per lanciare un appello a tutti coloro che hanno perso i loro cari nella, io la chiamo strage, che è avvenuta a Bergamo, Brescia e allora Cremona. Che devi dire a questi? No, ecco, in ragione di questo, volevo, siccome voi parlate con milioni di persone, avete personaggi politici. Vabbè, allora? Bene, vorrei la tua opinione. Perché le persone di queste tre città e provincia sono state cremate? Non mi dai so, una risposta? Roberto, non lo so perché non lo sai. Ma non lo so, a parte non tutti sono stati cremati, credo. Te lo spiego io e spero che ci sia molta gente, so che hai milioni di ascoltatori. No, vabbè, dimmi, dai. Te lo spiego subito. Verrà fatta da molte persone una denuncia prima alla Presidenza del Consiglio. Ma perché cosa tutti denunciano in questo periodo? Perché hanno fatto cremare delle persone che da morte non contaminano nessuno. Nessuno, perché quando sei morto il virus muore con quel corpo. Dunque la denuncia hanno perché dovuto, cosa? Scusa. Hanno dovuto fare un'azione mediatica. Perché cosa? Perché non te la ricordi la sfilata dei camion? Sì, come no, certo. Per coprire che cosa? Perché qui siamo nel campo del... No, e adesso ti spiego. Io ho un amico che è mancato il papà. Sì. Lui ha... giustamente dice, io voglio sapere di cosa è morto mio padre. E questo è giusto. E quindi è perfetto, solo che quando hai un corpo cremato, beh sì, certo, lì è impossibile, non la puoi più fare. Dunque, secondo te che cosa c'è dietro? Ah, secondo te dietro non c'è nulla da nascondere. E che cosa ci sarebbe? No, ma allora spiegami ma dimmi motivo. Tu che voi che sapete tutto. No, ma io Roberto, io non so niente. Sono stati cremati. Ma io non so niente. Allora, dimmi tu allora, il motivo. Sai, che cosa allora vogliono? Ma cosa vogliono? Sai, ma non lo so, certamente non lo so. Chiedilo a quel genio di Burioni. No, ma voglio capire qual è secondo te che cosa c'è dietro. Cazzate solo perché. Calma. Voglio capire. Voi avete il mio numero di telefono. Digli a Burioni di chiamarmi. Ma va bene. Figurati se ha tempo di parlare con te. Ma perché dovrebbe parlare con te? Perché io non sono un imbecille come te. Stai zitto, cretino. Scusami, eccolo qua. Che cosa c'è dietro secondo te? Torniamo al punto. Per favore, cosa c'è dietro? Sto chiedendo di parlare con la tua trasmissione. Roberto, cosa c'è dietro? Che stai lì in fianco. Digli di ma stare questo zitto. Qua è scemo forte, questo qua. No, scemo ma questo è scemo forte. Scemo forte proprio. Lei è un cretino, imbecille e deficiente. No, ma intanto stiamo incazzando improvvisamente. Che sto facendo con il ma quale discussione? Lei non sta facendo nessuna discussione. Lei è semplicemente un cretino. Roberto, una serie di sciocchezze inenarrabili. Mentecatto, che non è altro che un mentecatto. Mentecatto. Mentecatto. Cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro? Niente, ma mentecatto. Ma perché? Ma l'aspetto volentieri. Le offro un tè e poi la mando a fare in culo. Le offro un tè e poi la mando a fare in culo. La mando. E la mando a fare in culo. Lei è un criminale. Roberto. Ma lei è uno schizzoide. Ma ho capito, ma non mi dai retta. Scusami, Roberto, voglio capire una cosa. Cosa c'è dietro? Perché non sono riuscito a capirlo. Ma dietro secondo che te, cosa? Secondo questa teoria di Roberto, secondo vogliono occultare idiota. Qualcosa. Va bene, idiota. Ma cosa Roberto, idiota. Allora? Adesso, pagliaccio. Veniamo al dunque. Qual è dunque, sì. Hai presente mettiti il naso rosso prova che stanno facendo per il 5G? No, adesso no, il 5G non ce la posso fare. Ma te l'ho detto che era un coglione. Te l'avevo detto però. Che era un coglione, te l'ho detto che era un coglione. Te l'avevo detto. Cosa c'entra il 5G? Cosa c'entra il 5G? Allora studiate. Cosa c'entra il 5G con il coso? Sei d'accordo? Ma te l'ho detto che era un coglione. Ci risentiamo, ma io ho detto anche delle cose, ma cosa io ti ho detto che io te l'ho detto domani no, studia, io l'ho annusato, e ho detto che era un coglione. E come dice Sgarbi, ma io te l'avevo detto, Cruciani. State mentendo. Io ti avevo avvisato, ti ho detto questo è un coglione. Che fra due settimane vi viene a prendere tutti e vi fa un culo come una casa. Avete capito? al governo. Ma questo è un disturbato. Ma questo qua è una persona disturbata. Disturbata. Scusami, Roberto, il 5G cosa c'entra il 5G? Ma allora, nulla c'entra. Ne sei a conoscenza o no? Ma ho letto delle cose, ma chi è a conoscenza? Ma cosa vuol dire 5G col coronavirus? Qual è il legame? Allora te lo spiego. Allora te lo spiego in maniera molto semplice, in modo tale che tutti possano capire. Al di là del fatto che ci sono esperti e scienziati, tu forse non lo sai, ma c'è già una petizione inviata. Sì, petizione. Ci sono una marea di petizioni in giro. Anche la petizione, ci sono petizioni per mandarti a fare in culo. Non serve la petizione, basta mandarti a quel paese. Lei è un criminale, ha capito? Ma lei sa le le potenzialità, ma io non riesco neanche a discutere seriamente. Radiofonicamente, lei è un genio. Dopodiché, lei è un coglione. Tra l'altro, ti ha fatto un culo come una verba. Ascoltami, tesoro. Tesoro, lei piace la Meloni, quindi questo contro il 5G gli piace la Meloni. Sei un falso e un criminale. Molto bello, quindi a questo qui contro il 5G gli piace pure la Meloni. Abbiamo chiuso il cerchio, abbiamo fatto quadrare il cerchio con sto coglione. Lei invece sono un coglione. Ma le offro il tè e la mando a fare in culo, gliel'ho già detto mille volte. La mando a fare, la aspetto qua, voglio vederla in faccia. Voglio vedere che faccia a sto coglione. Ma da chi? Da chi? Dalla porcaccia della puttana che c'ha in testa. Chi c'è? Mamma Roberto mia. C'è ancora o no? È tutto poi quelli sono che dicono qua, è tutto documentato. Qual è il legame tra il 5G e il coronavirus? Non c'è legame. Se gli dici al buffone di stare zitto, ti rispondo. Si tolga il naso rosso. La terra è rotonda e piatta. La terra è tondo o piatta? Scusa, dai, Luciani, per favore. Ma che ne so, io dai, per favore, è chiaro che è piatta, dai. No, è chiaro che è piatta, dai. Non ho che pensa, ne ha la certezza, ne ha la certezza, non è che pensa. Fermi però, fermi tutti però. Allora, io vorrei capire da Roberto qual è il vero legame tra il 5G e il coronavirus. Perché siamo benissimo, dopo che il buffone ha fatto la sua buffonata serale, te lo spiego. Dimmi. Il 5G sì. Ecco, si sente. Ha una potenza rispetto enorme. Al 2, al 3 e al 4. Da questo non c'è dubbio, il 5 si chiama, certo. Superiore. Ma si chiama 5G per forza, il 2 e il 4, certo, ti credo, allora, se no se fosse inferiore non sarebbe 5G, no? E non sarebbe quando potente. Quando vai a sommare nelle cosa onde che vengono trasmesse. Ma che c'entra con coronavirus? No, aspetta che sommiamo le onde. Aspetta la somma del 2, del 3, del 4 del 2, 3, 4, 5. E del 5, per forza 5, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 5, in più, certo. Hai wifi. Ma che sì, ma cosa c'entra col coronavirus? Cosa c'entra? Se mi fai spiegare, ma no, ma arriviamo al dunque. Senta, lei per ora ha detto che 5 è più di 2 e che se sommi 1, 2, 3, 4 arrivi a 5. Lei è un imbecille. Sulle difese immunitarie, esatto, dell'essere umano. Okay? Come tante cose, però. Bene, diciamo che sia vero. La come seconda tante... domanda, la seconda domanda che ti faccio: qual è? Tu sai che in quella, esattamente in quella zona, è da più di un anno e mezzo, se non oltre, che sono è in prova il G5? Ma il 5G, lo sai o no? No, il G5 è un'altra cosa. Il 5G, scusami, il 5G. Ma chi se ne frega? Ma chi Vedi, allora devi andare a studiare. Quando avrai studiato, ne riparliamo. Devi andare a studiare. Vai a fare in culo, vai, Roberto. Devi andare ciao, a studiare. No, andate a fare in culo voi che non capite un cazzo. E siete dei banditi. Occhio che riparte. Raccontate palle. Occhio, ma è finita. Ma cos'è finita la trasmissione? Sì, perché è venerdì. È venerdì. E i vaccini. E i vaccini. I vaccini se li devono mettere nel culo. Ciao, perché il vaccino è un'altra lei cosa. Vota Meloni, vero? Che rovina il vaccino, ignoranti. Scusi, per chi ha votato lei che rovina elezioni? L'organismo. Non lo so perché ha votato. Ignoranti. Non lo so perché ha votato. Non capite un cazzo. Ciao Roberto. Lei è un criminale. Allora, c'è un signore che si chiama Pat da Milano per completare la serata. Vai, Pat, dimmi. Poi c'è signora, anche signora, ma scusami, ciao, che ne so, Pat. Ciao, Giuseppe. Dimmi, Pat. Niente, riguardo alla pornostar di prima, di 23 anni. Sì. prima di chiedere un sussidio dovrebbe pagare le tasse allo Stato. Ma guarda che quella non è una prostituta, può, diciamo, che lavora in nero, è una no ma le paga, che cazzo dite ragazzi, ma questa qua è una pornostar che fatturerà fattura una partita IVA e fattura. Allora voi confondete le cose i miei dipendenti non hanno ancora avuto la cassa integrazione, ho capito ragazzi, però io non ho ancora avuto un sussidio. Sì, ma io non sto dicendo non che tu non vedo perché questa deve. A 23 anni si può trovare un bel lavoro che non sia quello di fare la pornostar. Però scusa, se uno fa la pornostar, per me fare la pornostar non è così diverso da fare il tabaccaio. Tu che cosa fai? Hai una piccola impresa? Non so. Perché io ho un ristorante. Ma qual è il problema? Cioè lei offre un servizio, tu offri un servizio, lei offre un servizio, la gente si spippetta davanti a Marica Chanel e la gente invece viene a mangiare nel tuo ristorante. Io non ci vedo questa grande differenza. Offre un servizio come lo offri tu. E ecco, dunque se rimane senza lavoro anche lei dovrebbe perché la prima ci sono i lavoratori. Ma quella pure lavora. Succhia i piselli, che ti devo dire, si fa inchiappettare, ho capito, ma se è così che vuoi fare? Naturalmente tu sei un po' ossessionato dallo sesso, quindi ma non è il sesso, ma per me è uguale, sei ossessionato, ma non è questo, può darsi anche che io sia ossessionato, ma è un altro discorso qua, scusami Patte, però se uno come lavoro fa prendere nel culo e lo fa in maniera regolare, cioè fattura quando fa delle scene in cui lo prende nel di dietro, qual è il problema? Non ho capito, a chi fa torto, a chi fa un torto, alla morale pubblica? A che cosa? Perché deve avere meno diritti di quanti ne hai tu quando servi a tavola o quando servi un piatto di pasta? Perché ha meno diritti? Lei fa godere, tu fai godere. Lei fa godere in un modo, tu fai godere il palato. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Voi siete ipocriti. È la stessa cosa. Non è questione di siete ipocriti. Avete tabù. È la stessa cosa. No, io non ho nessun. Io sto dicendo però che come lei tu devi avere i soldi, anche lei che fa la pornostar deve avere i soldi perché non guadagna più. Non c'è differenza. È uguale. Italiani! Due coglioni. Così grandi, due coglioni così, quanto grandi sono diventati ormai, due coglioni più che mai, mi son rotto i coglioni, son come due meloni. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Amo quanto mi ami, dirà tutto il mondo, tutta la vita.